Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Parliamo di voce, da 12 puntate. In questi giorni due grandi voci ci hanno salutato, quella di Luca De Filippo e quella di Nando Gazzolo. E tutti noi di Voice Anatomy salutiamo con grande affetto e nostalgia la loro dipartita e diamo l'avvio della puntata proprio con la voce di Nando Gazzolo che recita Lentamente muore di Pablo Neruda. Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la marcia, chi non rischia e chi non cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce. Lentamente muore chi fa della televisione il suo guru. Lentamente muore chi evita una passione, chi preferisce il nero sul bianco o i puntini sulla I piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti. Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia l'incertezza per la certezza, per inseguire un sogno. Chi non si permette almeno una volta nella vita di sfuggire dai consigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non fugge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso. Lentamente muore chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare. Lentamente muore chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce. Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. Poesia pura quella del grande Nando Gazzolo, senza dimenticare ovviamente il grande De Filippo. Bene, e allora cominciamo subito, abbiamo già cominciato, ma continuiamo, come sapete perfettamente, ogni domenica al mio fianco si alternano degli attori doppiatori straordinari. Prima di questo vi ricordo ovviamente i nostri numeri, il numero verde per partecipare in diretta con noi a Radio 24 è 800 24 00 24. Per i vostri SMS, anche WhatsApp, ci siamo arricchiti, è il 349-238-6666. Dall'altra parte del vetro, come sempre, autori, capoautrice Alessia Navarro e Fabiani Damiano, Valerio si alterna ad Alessandro come tecnico del suono, oggi al posto di Gaia, Francesco in redazione che ci darà gli SMS, le telefonate, eccetera, eccetera. Ma al mio fianco nasce a Roma il 22 febbraio del 1960, finalmente posso dire l'anno, visto che è un uomo, è un attore e doppiatore ovviamente italiano, figlio del doppiatore Marcello Prando e dell'attrice Luciana Durante, anche lei a sua volta figlia d'arte, a differenza mia che sono figlio d'altri, perché insomma non ho nessuno da ricordare da quel punto di vista. Guardate, è inutile che vi faccia il curriculum del nostro amico perché è veramente lungo e può tediare, invece sentiamolo parlare che è la cosa più bella. Signori, diamo il benvenuto a Francesco Prando. Ciao a tutti, buongiorno. Eccolo, senza applausi. Eccoci. Senza un grande applauso. Lasciamolo perché merita, una delle voci più sensuali del panorama cinematografico italiano e per cui mondiale. Caro Prando, è un piacere. Allora, come è iniziato la tua carriera? A proposito, insomma, questa è una domanda ovviamente basica. Perché pur venendo da una famiglia di attori, di teatro, di direttori di doppiaggio, di doppiatori, io facevo tutt'altro, io suonavo. Tu suonavi? Suonavo. E continuo a farlo, certo, con risultati un pochino diversi da quelli del doppiaggio. Ma questo ci sta, insomma. Beh, se un Pegna che cresce all'interno del mondo del doppiaggio e del teatro, eccetera, e anche del cinema, ovviamente c'è la musica, però oggi hai portato anche un CD bellissimo e noi assolutamente. Il tuo gruppo si chiama Clystron. Esatto. Però prima di sentirti cantare e suonare, che la gente dice ma che me ne importa adesso, se ti prendo a parlare, sentiamo un primo contributo di un film, credo che sia tratto da un altro dei tanti eroi che Francesco doppia, che è Jason Statham, se non sbaglio, nei Mercenari. Dico giusto? E allora ascoltiamolo, 2 secondi, vai. Che cazzo vuoi? Vorrei ammazzarti. Non sei degno di stare al mondo. Tu sei fuso. Ma la prigione non fa per me, quindi ti farò solo tanto male. Non avresti dovuto colpirla. E perché? Perché io vado matto per quel visetto. Invece a me non dice un cazzo quella puttana. La prossima volta ti sgonfierò le palle, amico. Ecco, insomma, avete capito che è con chi avete a che fare già alle 14.39. A parte, credo che la voce che ti rispondeva era del nostro Cristian Ianzante, esatto, che è la voce poi ufficiale di Radio 24, che abbiamo già avuto qui in tutta la sua serenità. Cioè, nella sua follia, sana follia. Esatto, la prova più tranquilla che dici. Per cui mi sembra di capire che se non avessi fatto l'attore, avresti fatto il musicista. O almeno ci avrei provato, quello sicuramente. Poi invece per motivi anche puramente economici, nel senso che con la musica si guadagnava poco, io avendo la famiglia dentro ho detto vabbè, c'è la possibilità, proviamo. Era il periodo della nascita di tutte le televisioni private, quindi era un mare di lavoro che si riversava. Era l'inizio degli anni 80, era l'inizio degli anni 80, sì. Era anche perché prima c'erano o il cinema al cinema, esatto, o il cinema porno da doppiare, cioè non c'era altro. Ci siamo vabbè, sorvoliamo anche su questo, ma insomma, sì, ma come sai perfettamente, esatto, abbiamo fatto tutti i tipi di esperienza. Per carità, io non lo dimentico affatto che 35 anni fa godevamo come dei pazzi, ma non realmente la sera sotto le coperte, ma davanti a un leggio alle 9 di mattina. Devo dire che il copione, ti ricordi Francesco, non era così impegnativo. C'erano delle H, delle O, delle A da dire. Sì, non più, insomma. Non di più, insomma, a parte quello. Per se cui c'erano dei problemini di sync, insomma, poteva essere superfluo. Esatto, uno era attento ad altre situazioni. Però uscivano soltanto al cinema, era bellissimo. Poi, vero. Come hai detto tu giustamente, c'è stata la grande esplosione delle soap opera. Delle prime serie. Con quale hai cominciato? Io ho cominciato realmente con un cartone animato che si chiamava Don Chuck il Castoro, che si è perso aspettate che dall'altra parte del vetro qualcuno si è esaltato. C'è Alessia Navarro che sta facendo scoppiare il suo cuore per Don Chuck il Castoro. Don Chuck il Castoro, sì, non ha lasciato delle impronte indelebili, no, a parte nella storia della televisione. Don Chuck il Castoro. Che non è mai, non so se qualcuno di voi a casa vuole intervenire per sottolineare l'entusiasmo che c'è stato dall'altra parte del vetro con Docciacca e il Castoro. Il numero ve l'ho lasciato, mi raccomando, fateci sapere. Dopo questa bellissima esperienza, sono passato a qualcosa di un pochino più serio. Una delle prime serie americane che vennero in Italia, che in originale si chiamava I Walton, uh-huh, e che qui invece si chiamava Una Famiglia Americana. Io vinsi questo provino e cominciai a lavorare in maniera molto, diciamo, in maniera fissa tutti i giorni, praticamente, con questo direttore della vecchia guardia. Una volta era così, se c'era qualcuno che riusciva a capire, a intravedere delle capacità in quello che facevi, magari ti prendeva sotto la sua ala e ti portava avanti, certo, insomma, ti faceva crescere, ti insegnava tutto. E così è stato per me. Io ho avuto la fortuna di lavorare con questo grande direttore che si chiamava Mario Colli, persona tostissima umanamente, insomma, una persona un po' complicata. Sì, era un periodo che per chi cominciava come noi trovava dei muri violenti, giustamente, sì, cioè, sì, una selezione importante. Cioè, a me una direttrice della SAS, evito di dire il nome, mi disse: ma chi t'ha mandato qui? Perché sei qui? Tu non farai mai questo mestiere. Devo dire, non ci ha visto lunghissimo, però ci aveva ragione quel giorno, che era completamente inesperienza. Abbiamo cominciato, quindi tutti all'inizio abbiamo avuto le nostre problematiche. Io sono stato fortunato perché lui mi ha insegnato tutto quello che so, tutta la tecnica di questo lavoro. Quindi che cosa voleva dire il fiato, il diaframma, il disegno di una battuta, cioè tutto. Però tu già avevi una voce da eroe, pure da piccolo. No, non così assolutamente. No, certo. Ovviamente c'è una voce così a 20 anni, sì, ti chiamavano un esorcista per cercare. Sicuramente c'era una buona base su cui lavorare, su quello sicuramente. Ebbene, poi da lì, durante questa serie ho avuto praticamente la possibilità di fare il mio primo provino con la CD, che era la cooperativa dove c'erano Amendola e tutti. Esatto. E faccio questo primo provino e incredibilmente lo vinco immediatamente. Quindi mi sono trovato catapultato improvvisamente nel mondo dei grandi, certo. Quindi alleggio, ecco, con Ferruccio, con Pino Locchi, con la Savagnone, con Mario De Angelis, Massimo Giuliani, che era il mio contraltare, che per noi in quel tempo era praticamente era l'attore giovane per eccellenza, punto di riferimento, certo, assoluto, insomma. E quindi diciamo che poi mi ricordo che finito questo film me lo sono andato a vedere al cinema da solo. Che film era, te lo ricordi? Si così? Chiamava un film di Alan Parker, bellissimo, Bird, gli ali della libertà. Beh ragazzi, meraviglioso. Dove io facevo Nicolas Cage. Nicolas Cage, giovanissimo, e Matthew Modine, che era doppiato da Massimo Giuliani. Era bellissimo, un film bellissimo. Che vi raccomando assolutamente, sì. Tuttora veramente, con le splendide musiche di Peter Gabriel. Peter Gabriel, sì. Bellissimo. Bird, da non confondere con Bird di Clint Eastwood, invece è sulla storia di, esatto, sassofonista, eccetera. Siamo arrivati già alla fine del primo blocco. Siamo volati. Che succede? No, fantastico! Ma vi prego! Dei geni, sono dei geni. No. Noi apriamo con grande rispetto una trasmissione che narra di voce in tutti i suoi meandri a 360 gradi, raccontandole con criminologi, sociolinguisti, attori straordinari, attrici straordinarie, e voi siete andati a trovare Chuck il Castoro. Vado in pubblicità con una sorta di tristezza, con una lacrima che mi solca il viso, e vado a dare due cazzotti a Valerio di là. Ringraziamo, ma per carità, sto ovviamente giocando. E allora, dopo questa bellissima, eccolo, sì, bellissimo, Don Chuck il Castoro. Quando ero piccolo lo adoravo, avevo anche le videocassette, anche Gabriella, anche Luigi. Ok, sono in minoranza. Andiamo un attimo in pubblicità e vi ricordo che Voice Anatomy è soltanto cominciato. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Voice Anatomy. Ed eccoci tornati subito, come promesso, Voice Anatomy. Al mio fianco, alla mia sinistra, Francesco Prando, alias ormai Don Chuck il Castoro, nonostante la sua innumerevole e lunghissima carriera straordinaria di attore e di doppiatore, viene... Io non lo sapevo, ma comunque accetto questa situazione. Però io voglio dare un contraltare molto importante, insomma, a parte Don Chuck il Castoro e tanti altri che scopriremo strada facendo. C'è un grandissimo film dove c'è stato un grandissimo attore che ha vinto anche l'Oscar. Tu hai avuto il piacere di doppiare spesso e volentieri. Ascolterei un attimo di Dallas Buyers Club con il grande Matthew McConaughey, che dir si voglia. Anche questo chiedo aiuto ai miei radioascoltatori, che sono sempre più preparati di me. Prego. Ho una notizia da darvi. Non c'è nulla al mondo che possa far fuori il sottoscritto in 30 giorni. Stanno sperimentando dei nuovi farmaci e so che questo ospedale partecipa al progetto. Ne ho bisogno. Non funziona in questo modo, signor Woodruff. Dove sta andando? In Messico hanno ottimi farmaci. Migliori di quelli che puoi trovare negli Stati Uniti. La trovo bene. In effetti sono una meraviglia. Ci si può fare una fortuna. Parliamo di distribuzione. Niente da dichiarare, padre? No, signore, nada. Bellissimo, emozionante anche questo film. È difficile, sì, con, sì, Matthew McConaughey irriconoscibile. Assolutamente. Da quel punto di vista, pesava 30 kg. Quanti ne pesava? Credo che abbia fatto una dieta dimagrante proprio ai limiti della fame. Ecco, perché... Questa è la difficoltà anche del lavoro, non solo dell'attore. Cioè, un doppiatore deve far fronte a questo con la sua grande capacità anche di essere un attore, perché sei fermo davanti a quel leggio, non lo dimentichiamo, e cerchi di ridare almeno, certo, in parte o in maggior parte quello che quell'attore ti sta dando in quel momento sullo schermo. Lui era veramente straordinario. Tu l'hai doppiato poi spessissimo, anche nell'ultimo Interstellar. Sì, anche Interstellar, lo, sì, segui. Quasi tutti gli eroi te li porti a casa. Sì. Doveste vedere. È quasi ormai è diventata una regola proprio. La cosa bella sarebbe, ormai, perché c'è internet che aiuta tutti quanti voi, e per cui dare un volto a un attore, a un doppiatore, potrebbe essere molto divertente. Qualcuno si aspettano questi uomini alti 2 metri. Biondi, meravigliosi, invece eccoci qua, okay. Moretti, piccoletti, tutti bianchi, bianchi di capelli, però la voce è veramente evocativa in maniera incredibile. Qual è, a proposito di Matthew McConaughey, qual è stato il doppiaggio più difficile? Sicuramente Dallas Buyers Club, anche perché lui aveva un modo di un'emissione molto particolare. Poi questa sofferenza di un fisico debilitato fino all'estremo, lui l'ha trasportata anche nella voce, quindi aveva una voce molto roca, molto particolare. Poi ha una postura proprio della bocca quando lui recita, ha un modo di dire le cose assolutamente diverso, quindi la difficoltà è proprio l'attaccamento, cercare di entrare proprio, come diciamo noi, non lasciar perdere la bocca, entrare negli occhi, per doppiarlo, no? E cercare di ricreare l'emozione che ti dà lui con la sua recitazione. Assolutamente sì, anche perché poi fisicamente uno non stava combinato come lui. No, assolutamente. Quella sofferenza del fisico lui la esatto, lui subentra, anche in voce. Subentra un minimo ovviamente anche di mestiere, perché quello è inevitabile. Però io penso che se tu non provi determinate emozioni non riesci a trasmetterle, no? Quindi ti devi proprio immedesimare il più possibile, sentire queste sofferenze. E la cosa è arrivata assolutamente. Poi insomma stanno, ovviamente ci sono tutte le possibilità adesso di seguire un doppiaggio originale, i sottotitoli, vedere le differenze, divertirvi in questo. E il doppiaggio resta comunque una traduzione fatta bene o fatta male, ma non è cattiva, visto che può agevolare sicuramente un film molto complesso. Altri messaggi di ringraziamenti dalla trasmissione che fa compagnia, bravi bravi eccetera. C'è un altro, ma il vostro ospite ha doppiato anche Dylan di Beverly Hills 90210? Beh, sì. Che dici, sì, tu? È stata una delle serie di maggior successo che ho doppiato. Ma ragazzi, vi ho detto che questo è l'eroe per eccellenza. È venuto poi con i pettorali, è venuto in costume, nonostante a Roma ci siano veramente... Non è un bello spettacolo. No, no, questo, però lasciamola, la voce è evocativa, siamo per radio, per cui vale tutto. Certo. Approfittiamo. Però tu hai detto, ho cominciato come cantante, come musicista. No, come musicista. Tu cosa suoni? La batteria. La batteria. E siete un trio, se non sbaglio. Sì, esatto. Sono i Klystron. Yes. Che cos'è il Klystron? Perdona, è un componente elettronico, ma questa, l'importanza del nome è relativa, nel senso che quando eravamo piccoli, perché abbiamo cominciato a suonare insieme 39 anni fa. E siete sempre la stessa formazione? Siamo sempre la stessa formazione. Ci volevamo togliere uno sfizio, ognuno ha preso ovviamente strade diverse, tutti molto realizzati nelle proprie professioni, però avevamo questa cosetta che ci stava qui e che volevamo chiudere un cerchio. Però, praticamente, ecco, mi ha portato anche il CD, che ha un packaging straordinario. Si intitola il CD Time Presses. Che vuol dire in italiano il tempo stringe, e visto esatto, vista la nostra età, il titolo non perfetto. Capisco perché mi accomuni alla tua perché età, ti stavo guardando. Ma no, ma io ho 32 anni, portate con grandi dispiaceri, ma 32 anni. Allora ci ascoltiamo il pezzo, il title track, prego. This is the story of a guy who had to be a great lover. His name was Tony Walls, was living in a small tower. Coming out in a cold bed, a jewelless wind, searching for a new girl, so it might have been out. Of new grip investigation, it was a shoot to find her, to join this brilliant nation. But in the town you're delayed, he was stopped by your girl, a fascinating girl who said, and you so let high. And don't forget, be a great lover, hunter, and they like no other. Until the girl looking at him revealed a secret blowing through heart and red lips. But in my handkerchief you can find only in mine. No trace of tears in for love and time. The story tells the good words. Can really dream in few seconds. E questo è Time Presses. Come si titola il pezzo invece? Questo pezzo si chiama Down. Down, down. Il tempo stringe, down e giù, dai. Ma è un gruppo inglese degli anni di Liverpool. Sì, nel cave. Diciamo che siamo partiti un po' dal rock progressive, ma poi abbiamo spaziato, è venuto fuori una cosa molto, molto variata. Insomma, se tu dovessi tradire tua moglie, la tradisci con una batteria, un gruppo di amici, ma su un palco. Non c'è e dubbio. Basta. Bene, allora, il Klystron, io vi ricordo ancora il Twitter, che ovviamente chiocciola Voice Anatomy, Facebook Voice Anatomy Radio 24, la Voice Box, dove lasciate i vostri provini tutte le settimane, siete sempre tanti, noi ne scegliamo sempre uno che ci farà compagnia all'interno del nostro studio. Ci ha già raggiunto il nuovo provinante, ovviamente fra virgolette, sono persone che fanno magari altri mestieri, ma hanno la possibilità di cimentarsi in quello e lo fanno con grande amore, a prescindere dalla scorsa settimana dove l'ospite di turno è stato un po' troppo duro secondo me nei confronti dell'altro ascoltatore, che era un bravissimo professionista. Ma andiamo avanti, vi ricordo sempre 349-238-6666 e 824-0024. Altri messaggi, cavolo, se lo ricordo, bellissimo ancora Chuck e Castoro. La voce di Magneto da giovane, sì, anche quella. Anche quella. Senti, il personaggio difficile è stato quello, il personaggio a cui sei più affezionato invece? Sia di cartoni animati che ovviamente di doppiaggio? Non è facile fare una scelta perché sono tanti. Affezionato è legato sicuramente a quello di a Nicolas Cage, ma perché è stato il primo. Però Dylan è stato, ha dato un po' di Dylan, ma è stato, diciamo che quello dove mi sono divertito di più è stato Eric McCormack in Will & Grace. È vero, Will & Grace anche il protagonista. Noi ce l'abbiamo un piccolo intervento di Will & Grace. Vai. Beh, era davvero squisito. E adesso per pulire arriva lo spazzabriciole. Il bimbo ha un nuovo giocattolo. Mi stavo chiedendo perché avessimo cenato con cracker e pane di mais. Quello vecchio si era logorato. Questo è italiano. Quegli americani sono più robusti, ma io mi sentivo un po' naif. Eccolo là. Questa era anche bellissima, anche questa storica, sì. Will & Grace. Senti, oltre ad essere un doppiatore, ovviamente sei anche un attore. Le differenze che trovi, le difficoltà che trovi a passare da un ruolo all'altro? Sei anche musicista, poi, per cui... Sono due cose abbastanza diverse. Ovvio, la recitazione è la parte centrale di tutte e due, però una è un'espressione solo ed esclusivamente con la voce, l'altra è un'espressione con tutto il corpo. Le differenze sono, sì, diciamo che sono tante. Cioè, da una parte devi mettere il corpo quando reciti con la voce, ma non lo puoi utilizzare, dall'altra parte devi mettere tutto. Esatto. E quando sei scena come musicista, ma ti sei completato. Resta qui, stato... Brando, resta qui, non ti muovere, anche voi, mi raccomando. Voice Anatomy è soltanto all'inizio. Voice Anatomy. Bentornati signori alla domenica di Voice Anatomy e non solo, di Radio 24 in diretta dagli studi di Roma. Sono le 15.00 e 18 secondi, ancora al mio fianco l'amico Francesco Prando, voce che vi ha accompagnato in tutti i vostri sogni di personaggi meravigliosi, soprattutto le nostre mogli da quel punto di vista, siamo un po' rovinati da quel punto di vista. Dall'altra parte mi ha raggiunto anche un amico che non partecipa alla trasmissione, ma è un caro amico, un autore vero con la A maiuscola, che è Mario Audino, con il quale ho avuto delle avventure televisive molto interessanti, ovviamente non a sfondo erotico, ma avventure dal punto di vista professionali. E sta qui in veste di amico e autore innamorato della radio come tutti noi. Caro Francesco, qui mi arrivano tantissimi messaggi, ovviamente hanno scoperto una cosa, che tu sei la voce anche di James Bond in questi ultimi film di Daniel Craig. Dimmi un po', mi chiamo Prando, Francesco Prando. No? Il mio nome è Prando, Francesco Prando. Ecco, capito, perché qui anche lo chiede con... è difficile citare con la voce il ruolo di Bond in italiano, con stima Mario da Rimini, anche Luisa, anche Carla, insomma vabbè, tutti innamorati di questa situazione. Abbiamo un momento di Spectre, che è l'ultimo film straordinario della saga di James Bond. Città del Messico, che cosa ci faceva lì? Avevo delle ferie arretrate. Che cosa succede, James? Dicono che sei finito. Tu che ne pensi? Secondo me hai appena cominciato. Mi serve un'ultima cosa. Che cosa hai in mente? Fammi scomparire. È bello, beh, dai. È bello. Per quanto riguarda questo tipo di lavoro con la voce, tu ti senti, dai, quella settimana tu esci e monti in macchina come se salissi un po' sull'Aston Martin, non è che... Beh, non è proprio la stessa cosa, però... No, c'è un minimo, dai, sì, rimane sì, un no, po'. È vero, è vero. Di transfer, un attimo ci sta, perché sì, uno rimane poi, bambino da quel punto di vista. Quello sicuramente, poi sai, stiamo parlando proprio di un'icona della cinematografia mondiale, quindi arrivare a fare una cosa del genere, arrivare a poter dire il mio nome è Bond, James Bond... Insomma, esatto, perché non, tu non poi... È un obiettivo, non è un punto d'arrivo, certo. Però insomma è una bella tappa. Tu che hai cominciato poi con il grande Pino Locchi, che era la voce indimenticata di Sean Connery, esatto. E che lo rendeva anche migliore da un certo punto di vista, perché aveva una profondità di voce straordinaria. Gli attori doppiatori di una volta avevano una grande personalità da quel punto di vista, riuscivano a fare magari 4-5 personaggi come Amendola e lo accettavi a quel punto. E se voi sentite Sean Connery in originale, era scozzese, Per cui la voce è My Name is Bond, James Bond. Sì, sì, sembrava più bolognese che ha. Invece sì. Pino Locchi lo arricchiva da questo punto di vista. Quali sono stati, a proposito di questo, i maestri che ti hanno, quelli che ti hanno influenzato di più nel lavoro di attore e doppiatore? Guarda, ti ho detto Mario Locchi, Mario Colli inizialmente è stato lui che mi ha insegnato praticamente tutto quanto quello che potevo sapere. E poi tutti i doppiatori, tutti i grandi direttori con cui ho lavorato all'inizio, ma poi anche durante tutta la carriera, perché da ognuno tu prendi qualche cosa, se riesci ad ascoltare nella maniera giusta quello che ti dicono. Manlio è stato quello con cui, Manlio De Angelis, quello con cui ho fatto Birdie. Dopo ho cominciato a lavorare con un altro direttore fantastico che mi è rimasto nel cuore, che era Giorgio Piazza, un altro direttore della voce straordinaria. Un giorno vi faremo ascoltare, raccontandovi i nomi e cognomi di queste persone che non ci sono più, perché è giusto magari, perché una volta i nostri genitori almeno pensavano che Gary Grant avesse quella voce, certo, che non era Gualtiero De Angelis, no, ma era quello, cioè, con lo stesso ciclo, John Wayne era, e allora dovremmo andare laggiù, non potevi sapere che avesse un'altra voce, cioè erano straordinarie queste, sì, cose, vero, qui, perché era nell'immaginario collettivo tutto questo. Poi preferisci il cartone o il film? No, preferisco il film. Però tu dici che hai definito il cartone animato l'università del doppiaggio. Beh, l'università del doppiaggio perché soprattutto all'inizio, adesso i cartoni sono un po' cambiati, diciamo che hanno anche delle espressioni e delle movenze molto più umane, perché sono costruiti ovviamente con la tecnologia in una maniera diversa. Ma inizialmente col cartone tu dovevi creare tutto, perché avevi una linea che faceva la bocca, che si muoveva, e dovevi creare le espressioni, dovevi creare le intenzioni, dovevi creare un po' tutto. Quindi stava tutto a te, come sperimentare sul tipo di voce che volevi usare, che è una cosa molto divertente, ma una cosa anche molto molto complicata. Certo, no, per questo è vero, devi dargli l'anima in tutto. È vero che il cartone poi resti tu per sempre, che non ha la faccia di un altro attore, per cui il cartone sei tu per sempre. Continuano ad arrivare cose su Chuck e il Castoro, ma gli anni di Don Chuck e il Castoro erano infernali per i bambini con i denti in avanti. La cantilena per prenderli in giro era proprio la sigla di quel cartone. Ma sinceramente vedi come scattano dei meccanismi insospettabili, sì, intorno a qualcosa che magari non sapevi neanche che esistesse, almeno io non lo sapevo. No, non lo sapevo nemmeno io, no, assolutamente. Te l'avevi anche dimenticato. È proprio una novità. No, dimenticato no, però insomma, come le prime cose che fai ti rimangono sempre proprio attaccate dentro. Senti, no? Caro Prando, siccome noi qui ci piace quando vengono delle voci a raccontarci, a leggerci anche qualcosa, perché, ripeto, la radio, la voce è l'evocativo per eccellenza. A questo punto, come abbiamo chiesto a Rodolfo Bianchi di leggere le istruzioni per la lavatrice, non vogliamo dire quello che fare tu, come Giupizzo, cioè, vado a memoria, ha letto il risultato, la telecronaca di Sassuolo Lazio, non felice per quanto mi riguardava, ma è diventata veramente bello sentirla raccontare con quella sua voce. Anche a te, la nostra autrice, ha preparato qualcosa di particolare che tu leggerai. Molto particolare. Molto particolare. E poi accetteremo ovviamente da parte vostra di sapere di cosa sta parlando il nostro Francesco Prando. Prego. Lava le mani e rimuovi l'involucro. Allunga l'applicatore con tutta la sua lunghezza. Tira il tubicino interno finché non senti clic e lui è pronto per essere inserito. Le posizioni adatte all'inserimento sono diverse. Il modo più facile è quello di sedersi in posizione rilassata. Altrimenti si può provare restando in piedi, sollevando una gamba, magari appoggiando il piede sul bordo di una vasca o del lavandino. Usa il pollice e il dito medio per tenere fermo l'applicatore. Posiziona la punta arrotondata dell'applicatore sul forino e inizi a spingere delicatamente, puntando verso la parte bassa della tua schiena. Continua a spingere delicatamente il tubicino fin quando non sentirai le dita sfiorare il tuo corpo. Se l'applicatore trova un po' di resistenza, sempre delicatamente, ruotalo sulla destra o sulla sinistra mentre lo inserisci. Tieni stretto il tubo dell'applicatore esterno e con il dito indice spingi completamente il tubicino più piccolo che sta all'interno fin quando non senti clic. Lui scivolerà facilmente nella posizione corretta e il gioco è fatto. Oh, addirittura. Siccome la trasmissione è abbastanza seguita, non so se da domani ci chiameranno ancora. Beh, vedete, questa è proprio la controprova di come una voce possa saper raccontare qualsiasi cosa e rendertela poi interessante, perché dipende dall'entusiasmo e dal modo, dal colore. Adesso Francesco ovviamente non ci saluterà mai più, perché l'abbiamo incastrato in un'avventura che non prevedeva. Ma scusa, da questo momento una cosa del genere, ma quando mi ricapita? No, è vero, pure questo, anche questo è vero, leggere. Però non vi diciamo cos'è, sembra una cosa altamente erotica o magari di dubbio gusto, non è così, io non voglio dirlo, sarebbe bellissimo un gioco... No, non è quello. Ci sono un paio di messaggi. No, non vibra. Non è assolutamente quella direzione. Non siamo così bassi da questo punto di vista. Radio 24 è sicuramente una radio importante da questo punto di vista. Una talk radio di un certo livello. Noi ovviamente cerchiamo di arrivare un po' dappertutto e rendere anche piacevole una domenica particolare. E va bene, mentre voi tentate di indovinare qual è l'elemento che stava raccontando Francesco, qui mi dicono, stavo per fare proprio questa domanda. Francesco, sì, è la voce di Flander, dei Simpson, una serie dell'indimenticato Tonino Accolla. E adesso è Massimo Lopez che sostituisce, ovviamente quando va in sostituzione è sempre molto complesso, soprattutto un personaggio di grande spessore. E allora, com'è Flander dei Simpson? Come l'hai trovata questa voce? Questa voce l'abbiamo trovata insieme proprio con Tonino, perché inizialmente, soprattutto su cartoni animati di questo tipo, si fa uno studio accurato per cercare di trovare la via giusta poi per rendere il personaggio. È difficile che tutti i personaggi poi abbiano delle voci estremamente simili a quelle che sono le originali. Tonino ce l'aveva fatta, era fantastico. Raccontamelo come lo racconterebbe lui, questa cosa che mi stai raccontando con la voce. Come di lo racconta? Sì. È complicata perché è lunga. Dai, hai fatto una cosa. No, lei, dai, un minimo come Francesco, un minimo come allora, salve Salvino, ascoltatorini di Radio 24. Allora, la mia vocina sono riuscito a trovarla con l'aiutino di Tonino. Lui è stato bravissimissimissimino e alla fine è riuscito fuori questo risultatino. Ciao, ciao. Come pensate che lui è James Bond e anche Flander, ma soprattutto non dimenticate Francesco Prando e Chuck, Don Chuck il Castoro. Signori, dopo altri due tentativi Gabriella ha portato a casa niente, perché non si vince niente, però sì, era l'assorbente interno. Gabriella, è vero, cioè, insomma, soprattutto giusto una donna giustamente ci è arrivata. E questo è un gioco, no, per fare un gioco di parole interno, addirittura Anna Diudine ha dato pure la marca, va bene, non andiamo oltre, insomma, no, non è, era solamente quello. Però avete visto, pensate se i bugiardelli, o come si chiama, i bugiardelli delle medicine si chiamano bugiardelli, se non sbaglio. Bugiardino, grazie caro Valerio. Il bugiardino, perché bugiardelli, perché dicono bugie ogni tanto, non si capisce per quale motivo si chiama così. Qualcuno ci spiegherà l'etimologia della parola. Parlavamo anche di serie tu ne hai fatte tante, sì. Cominciando da quelle dimenticate che abbiamo raccontato prima, di Will e Grace, ovviamente i Simpson, Prison Break, Beverly Hills, va bene. Comunque si è indubbiamente innalzata le qualità sia della serie che si facevano prima, e trovi che ci sia corrispondenza con la qualità del doppiaggio? Ritieni che l'enorme mole di lavoro invece abbia comportato un leggero declino della qualità del doppiaggio? Il televisivo è sempre penalizzato a livello di doppiaggio, perché comunque i tempi sono diventati sempre più stretti, lo sai perfettamente. Perfettamente, meglio di me, quindi dobbiamo correre il più possibile. La qualità invece del prodotto televisivo si è innalzata in maniera esponenziale, anche perché ormai c'è una migrazione di tutti gli attori di cinema che sono andati a fare le serie. È pieno di serie fatte da grandissimi, oltretutto attori di cinema. La tecnologia ha aiutato, cioè vedi delle serie che sono praticamente, ogni puntata è un film. Quindi, sì, assolutamente. E quindi è un peccato, insomma. Che stai facendo adesso? Dove sei protagonista in giro? A parte Person of Interest, Person of Interest dobbiamo fare l'ultima stagione. Recenti finite, ho finito Following. Kevin Bacon. Kevin Bacon. Un paio di altre serie che devono uscire. Nashville, è un'altra serie. Bella. Tante, sono tante che a volte me le dimentico. Sì, perché il rischio di confondersi da questo. Sì. Ma dunque, lui era l'assassino? No, amore, lui è il marito di... Esatto. È ovvio che devi riprendere, perché ti capita in questo mestiere che la mattina il primo e secondo turno fai Following, il terzo turno fai Simpson. Assolutamente. Devi cercare per... Cioè, poi dici che uno però è bipolare. È anche il bello di questo lavoro. Ah, assolutamente, non torni a casa che sei veramente solo un assassino. Allora, ci ha raggiunti anche per l'ultimo blocco, fra poco con Francesco Prando, anche... l'amico, il provinante Marco Lattanzio, che è lì emozionato di trovarsi di fronte a un suo idolo, ovviamente non sto parlando di me, ma di Francesco Prando. E allora, caro Flanders, mi rimandi in pubblicità un attimo, dici che torniamo fra poco, o con James Bond, come vuoi tu. Andiamo in pubblicità, dillo tu Francesco, con una voce qualsiasi. Allora, signore e signori, andiamo in pubblicità. Pubblicità! Chi si muove, Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta... Voice Anatomy. Beh, signori, grazie veramente, perché mentre eravamo in pubblicità, ovviamente do una controllata a tutti i messaggi che arrivano, e sono tanti, e io ringrazio ovviamente Mario da Rimini, che Francesca mi ha conosciuto Daniel Craig, non credo, cioè, no, purtroppo, se si era mai espresso sulla voce. Sì, loro si esprimono perché scelgono loro poi le voci. Potrebbe essere un'idea geniale allegare le istruzioni d'uso su tutte le medicine con un CD fatto da voi doppiatori. Beh, certo. Sarebbe bellissimo, ragazzi, siete fantastici. La ragazza era una fan dei Tampax, il mondo delle coraggiose che fecero uso del rivoluzionario oggetto, si dividevano tra OB e senza e con applicatore. Ne sono ricordato un fatto adolescenziale, a parte della liberazione degli anni 70. Guarda dove sono andati i nostri radioascoltatori, veramente incredibile. Comunque al telefono abbiamo Marcello da Firenze. Allora, benvenuto Marcello, dimmi tutto. Buonasera. Potevo forse darvi un chiarimento sulla origine etimologica della strana parola bugiardino. Ah, che bello, vedi come sono attenti, te l'ho detto, i nostri Fantastico. Ascoltatori sono straordinari. Dimmi, ascoltiamo. Dunque nasce dal settore dei medicinali, perché storicamente questi venivano fatti dai farmacisti con base alchemica, piuttosto in fase di sperimentazione spesso, per non privarsi dei pazienti timorosi di reazioni che a volte erano mortali. Il farmacista tendeva a esaltare le probabilità di successo, cioè di cura, trascurando le probabilità di insuccesso, cioè di danno ulteriore per il malato. E quindi da qui la tradizione del recettore, che sperava comunque di migliorare la propria salute, di chiamare bugiardino questo strumento medicinale, oggi chiamiamo quello che chiamiamo medicinale, accompagnato appunto da questa serie di avvertenze collaterali in grado di avvisare chiunque che è roba che può far male. Grazie Marcello, sei stato straordinario, grazie intanto di ascoltarci, e questo mi fa enormemente... Perché lavoro fai, Marcello? Il farmacista, che lavoro fai, dico? No, farmacista no, faccio un professore universitario. Ah, ecco, infatti ci ha insegnato anche qualche vocabolo in più, e noi ti ringraziamo davvero. Marcello, grazie della tua attenzione, come quella di tutti i nostri amici che ci scrivono tantissimo. Questo doppiatore è un mito, ha fatto alcuni tra i personaggi che mi piacciono sempre, ma i Barona non ci sono, ma no, i Barona si alterneranno nel nostro studio, che è un gruppo di vocalist straordinario, ma hanno anche loro una tournée, eccetera, eccetera. Insegno, ma quanto parli, datte una calmata. Beh, devo parlare, sto per radio, che devo fare? Allora, ci ha raggiunti Marco Lattanzio, che ha mandato il suo provino all'interno del vostro voice box, di ovviamente il numero è 828 12 12, per chi vuole ovviamente ancora avventurarsi in questi provini. Allora, caro Marco, tu quanti anni hai? Io ho 43 anni. Che cosa fai nella vita? Sono un agente di commercio, sono un rappresentante. E che perché ti prendi, cioè, ti piace così tanto questo mestiere, l'attore? Devo dire un che gioco. Il mondo del doppiaggio mi ha sempre affascinato, è sempre stato un mondo che mi è piaciuto tantissimo. In generale, tutto quello che riguarda la voce. La recitazione, perché tu sai perfettamente, se un doppiatore deve essere ovviamente un attore. Assolutamente, assolutamente. Però mi piace questo fatto che molte persone che vogliono intraprendere, o gli piace, anche soltanto come hobby. Io lo dico, certo. Avremo presto, spero, il ministro della pubblica istruzione, perché il sogno è quello di avere nelle scuole proprio una scuola di teatro, che non significa che quella persona poi debba fare l'attore da grande, ma magari ma possa comunque fare comunque aiutarla a recitare, capire che cos'è le corde vocali, cosa stiamo esatto. cercando di spiegare, quanto sarebbe bello che i professori parlassero con una voce piacevole per farci amare quello che ci raccontano. Allora, che cosa hai lasciato nella nostra segreteria telefonica? Nella vostra segreteria telefonica ho lasciato l'incipit di un film al quale sono molto affezionato, che è Big Fish di Tim Burton. Ah, niente proprio di meno che è bellissimo. Che... è un altro film da consigliare. È un film che parla poi di un agente di commercio, sostanzialmente di un piazzista che inventa storie meravigliose che racconta poi. Sei contento di avere Brando di fronte che si giudicherà? Terrorizzato, onorato di avermi di fronte, Francesco. Sarà onestissimo, e poi considerando il fatto che bisogna rispettare chi ama questo mestiere non facendolo, bisogna rispettarlo ancora più. Assolutamente. E allora, musica, una musica, scegliene. Va bene, bravo. A te, caro Marco, vai. Ci sono dei pesci che nessuno riesce a catturare. Non è che sono più veloci o forti di altri pesci. È solo che sembrano sfiorati da una particolare grazia. Un pesce di questo tipo era la bestia. E all'epoca in cui io nacqui era già una leggenda. Aveva snobbato più esche da $100 di qualsiasi altro pesce in Alabama. C'era chi diceva che quel pesce era il fantasma di un ladro annegato in quel fiume 60 anni prima. Altri sostenevano che era un dinosauro, sopravvissuto al periodo crostaceo. Io non davo peso a queste speculazioni o superstizioni. Sapevo solo che avevo cercato di prendere quel pesce da quando ero un bambino non più grande di te. E il giorno in cui tu nascesti, beh, quel giorno finalmente lo catturai. Ci avevo provato con tutto quello che avevo. Esche, vermi, burro di noccioline e formaggio. Ma un giorno ebbi un'illuminazione. Se quel pesce era il fantasma di un ladro, mi dissi, le normali esche non avrebbero funzionato. Avrei dovuto utilizzare qualcosa che lui desiderava veramente. L'oro. Allora legai il mio anello alla lenza più forte che esisteva. Dicevano così forte da tenere su un ponte anche solo per pochi minuti. E poi la lanciai nel fiume. La bestia schizzò fuori e garrì l'anello prima che potesse toccare l'acqua. E con la stessa rapidità, con un morso, troncò in due la lenza. Ora, tu capirai il mio sgomento. La fede nuziale, il simbolo della mia fedeltà a mia moglie, che stava per diventare madre. Smarrita nella pancia di un pesce incatturabile. Seguì il pesce su e giù per il fiume. Questo pesce, la bestia, tutta la città lo aveva sempre preso per un maschio. In realtà era una femmina. Era piena zeppa di uova e le avrebbe deposte da un giorno all'altro. Ora io mi trovavo con questo dilemma. Avrei potuto sventrare il pesce e recuperare la mia fede nuziale, ma così facendo avrei ucciso il pesce gatto più astuto del fiume Houston. Era il caso di privare mio figlio della possibilità di pescare un pesce del genere? La signora pesce ed io avevamo lo stesso destino. Facevamo parte della stessa equazione. Beh, è la lezione che ho imparato quel giorno, il giorno in cui nacque mio figlio. Qualche volta, il modo per catturare una donna incatturabile e offrirle una fede nuziale. Bene, e allora, beh, questo è un incipit. Qualcuno dice che non è piaciuto questo film, ma insomma, a me è piaciuto moltissimo. Poi ovviamente sono storie, ma poi c'è un messaggio lunghissimo che non posso leggere ovviamente, non credo che sia di Enrico di Bosco Regale, ti ringrazio per i complimenti, ma è lunghissimo, non so se è il tuo. Comunque, Francesco, abbiamo sentito il nostro agente di commercio di 43 anni, sposato con una bimba meravigliosa, Penelope, di 9 mesi, alla quale racconterai storie. Penelope. Ma come mai quella sera che te rifà, che cosa avevi? No, nel senso, a proposito di storie, perché tu manchi molto da casa, viaggio come e tu dici, come Ulisse, esatto, torni dopo 20 anni. Diciamo che è un nome che è sempre piaciuto sia a me che a mia moglie, infatti siamo trovati subito d'accordo nello show. Tua moglie si chiama Emanuela. Emanuela e Marco sono nomi normalissimi. Sì. Penelope, un ricordo di altri tempi quando facevo il liceo classico, insomma, quindi mi è rimasto impresso. Bene, allora Ettore, dimmi, come va lì a Ilio, che nel film Troy si è dovuto cambiare perché lui esordiva Achille con un pezzo, figli di Idrio, perché insomma in italiano diventava veramente un'offesa. Com'è il nostro amico Marco? Devo dire la verità, io ci sono entrato nel tuo racconto e questo credo che sia la cosa più importante. Nel senso che l'ho seguito bene, l'ha interpretato in una maniera semplice, però sentita. Io ho sentito il cuore, questa è una cosa assolutamente bella. Certo, si sente l'inesperienza, si sente un'addizione ovviamente non perfetta, ma credo che a te questo importi molto poco. La salentinità che va benissimo. Io penso che Penelope sarà molto contenta quando le racconterai le storie, perché le racconti bene. Grazie Francesco, grazie mille. Mi riprende anche un altro amico, perché io dico sempre like, invece si dice profane. Pino, non te lo dico più, ogni domenica mi corregge su questa cosa. Hai ragione, ti chiedo umilmente scusa. Ripeto, istruzione e preparazione H. No, adesso non possiamo fare a richiesta di invece di mandare delle musiche. Allora a quel punto ovviamente mandiamo un pezzo del nostro amico Francesco Prando con i suoi Clystron. È mai uscito questo disco allora? Stiamo per adesso vediamo quello che succede. Noi ci speriamo, ma insomma. Sì, ma ci mancherebbe altro. Senti, caro Marco Lattanzio, vuoi fare cioè era il tuo sogno nel cassetto, insomma, già sì. Questa esperienza credo che ti abbia regalato. Giornata meravigliosa, ecco, devo dire, veramente. E devo dire, si respira un'atmosfera veramente bellissima, di grande serenità, di amicizia. Ma vi ringrazio. Questo io credo, e lo dico anche al mio amico Mario Audino, autore televisivo e anche di colleghi come l'amico Panariello, dico, questa credo che sia l'aria che si debba respirare ovunque per poter fare un buon lavoro. Non è vero, Mario? Puoi anche parlare se vuoi, sei lontano, eccolo lì il microfono. Mario. No, ovviamente, questa sarebbe l'aria, non è sempre questa. Non è... Perché il divertimento è il gioco, poi gli attori si chiamano i player all'estero, o i jouets in Francia, cioè coloro che giocano. Ma bisognerebbe sempre giocare con la vita, giocare fra virgolette e ridere, sorridere, non è vuol dire prendersi poco sul serio, che già sarebbe quello una gioia, ma significa amare fortemente quello che si fa, che poi anche il grande Steve Jobs credo che sia stata proprio una sua massima, quella di amare fortemente. Tu devi cominciare assolutamente con un sorriso ed è ben disponi gli altri, te stesso, ti fa aiutare di più, ci si diverte di più e si trovano anche delle cose migliori. Smetto di fare il filosofo, che ce ne sono già abbastanza. Insomma, la domenica uno però hai detto delle cose giustissime. Vabbè, erano proprio per ringraziarvi. Niente, a questo punto io devo salutare il mio amico Francesco Prando, un amico anche di tutti voi. So quanto manca, ma voglio salutarle bene le persone, non cacciandole via. Così. Io e te avevamo una frase, non so se te la ricordi, che ci contraddistingueva. Beh, perché glielo dico sempre, che lui doppiavamo un film sudamericano proprio sui desaparecidos e facevamo i due protagonisti di questo film ed era bellissimo. Tu eri, dici quella frase, brindo a voi, dimmela. Brindo a noi, liberi. Liberi. Che in questo momento ha una doppia valenza. Sì, c'ha un significato da non sottovalutare. Sì, senza entrare ovviamente nella profondità di tutto questo, però è vero, liberi, rimaniamo liberi, liberi da paure, liberi da angosce, liberi da costrizioni. Caro Lattanzio, vuoi salutare il tuo amico Brando e digli come ti chiami, come Bond, come ti chiami, diglielo. Sono Marco. Lattanzio Marco. Sono imbarazzatissimo dall'averlo fatto, Francesco. Ho approfittato del... E allora ecco, volevo prendermi questo minuto per giustamente salutare degnamente gli ospiti che ci sono. Marco, grazie di essere intervenuto, come grazie a voi che continuate ad inondare la nostra voice box. Grazie a voi, non abbiamo finito la trasmissione, questa parte della trasmissione è terminata. Mario rimarrà qui perché ci ha portato oltretutto un grandissimo che verrà fra poco sarà qui Piera degli Esposti, che è di là e ovviamente sta aspettando il suo turno. E Mario invece Audino mi ha portato il vincitore reale poi di Tu sì che vales, questo imitatore straordinario che riesce veramente a modificare la propria voce a suo piacimento. E allora grazie a Francesco Prando. Grazie a te. Ci rivediamo e brindo a te e in bocca al lupo per i Clystron. Grazie. A tra poco con Voice Anatomy. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno a Voice Anatomy, sono le 15.33 e 37 secondi, vi ricordo i nostri numeri, anche se li sapete, molti li sanno e li utilizzano già, per intervenire in diretta con noi 800 24 0024, il numero degli sms, nonché WhatsApp, il 349 238 6666, ovviamente come tutti i nostri resto dei social. Abbiamo parlato con Francesco Prando, abbiamo assistito al provino, fra virgolette, del nostro amico Marco Lattanzio, che si è cimentato in Big Fish. Continuiamo ancora per un blocco con il doppiaggio, perché c'è un momento molto importante per quanto riguarda proprio questa grandissima professione che abbraccia un po' tutti, non soltanto i doppiatori ma anche i tecnici del suono in sala, dell'assistente di sala, del direttore e nonché all'inizio dal traduttore e dall'adattatore. C'è un percorso importantissimo che poi termina con il fonico di mix, che è quello che poi misserà il film, e devo dire che in queste cose siamo veramente, sono i migliori al mondo, i nostri tecnici invidiati e chiamati in tutto il mondo. E mi ha raggiunto l'ideatore, il curatore del Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, che è Filippo Cellini, nonché titolare anche della Ince Comunica, una società di comunicazione molto, ma molto importante, che ogni anno, da ormai quante edizioni si è arrivati? Siamo alla settima. Settima edizione di questo Gran Premio Internazionale, ha provato e appoggiato un po' in tutto il mondo, perché abbiamo avuto anche i doppiatori di tutto il mondo ospiti, nonché anche degli attori straordinari come Woody Allen, che è venuto anche Murray Abraham, Matthew Modine, eccetera eccetera, Jacqueline Bisset, che sono venuti proprio a gratificare questo mondo e a conoscere personalmente le voci che raccontano i loro corpi. E quest'anno ci sono, ecco, in anteprima proprio le candidature, le nomination, nonché anche la possibilità di partecipare il 17 dicembre, esatto, prossimo all'auditorium del Massimo qui a Roma. È un auditorium bellissimo che è all'Euro, e credo che daremo anche la possibilità a qualcuno di voi, degli ascoltatori di Radio 24, di partecipare attivamente a questa, anche non solo con le votazioni, che adesso tu sarai più preciso in tutto questo, per votare anche loro il premio del pubblico, del doppiatore, esatto, amato dal pubblico, ma anche per partecipare direttamente a questa serata magica, dove potete conoscere magari questi nostri straordinari professionisti. Beh, grazie Pino, io partirei proprio da quello che stavi dicendo, cioè il premio del pubblico. Quest'anno, insieme a Radio 24, insieme a tutti i nostri partner, abbiamo deciso di ampliare il premio a due candidature: la miglior voce maschile scelta dal pubblico e la miglior voce femminile. Il premio del pubblico si sviluppa attraverso il nostro sito internet e i nostri social, che ricordo premiodeldoppiaggio.it, l'email è info@premiodeldoppiaggio.it per avere informazioni. Sul sito si può sviluppare il form e quindi votare. Tra tutti quelli che voteranno, ovviamente, non solo si raccoglieranno i dati e quindi si stabilirà la miglior voce maschile e la miglior voce femminile dell'anno scelta dal pubblico, ma qualcuno verrà anche estratto e potrà partecipare direttamente alla serata. Nel frattempo, anche chi lascia i provini qui da voi alla Voice Box, tra tutti quelli che da qui fino al 14 dicembre lasceranno i provini, verrà scelto tre voci tra le migliori che potranno partecipare alla serata. Quindi una duplice occasione di apertura per il pubblico al Festival del Doppiaggio, al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, che ricordiamo una volta per tutte è il premio più importante nel doppiaggio italiano e molto probabilmente il premio più importante del mondo, anche perché siamo i più bravi in tutto il mondo a doppiare. Quindi questo devi dirlo tu, che sei un profano, non un laico come sbaglio ogni domenica. Esatto. E faccio una piccolissima premessa, perché quest'anno il premio si arricchisce di alcune, come posso dire, caratteristiche in più rispetto agli anni passati. Innanzitutto quest'anno daremo due premi d'eccezione, due premi alla carriera d'eccezione, uno al grandissimo Gigi Proietti, che non so se tutti sanno che Gigi Proietti è un grandissimo doppiatore, perché sì, lo magari lo ricordano in qualcosa, ma magari rimangono anche a bocca aperta quando sanno che lui è la voce di Rocky Balboa, del primo, del grande Rocky, Adriana, e il suo modo di recitare col naso atturato del pugile suonato, anche leggermente romanizzato, leggermente, perché se vi ricordate, ricordate, tartaruga, resta in città, ma che questa accappatoio mingoffa, Adriana, eccetera, eccetera, il suo Adriana resta nella storia, poi ovviamente portato ancora avanti dal grande Ferruccio Amendola, esatto. Dove diceva però nel 2 Adriana, esatto. È già questo. E poi la grandissima Maria Pia Di Meo, che è stata anche qui da voi ospite, una delle voci molto probabilmente più grandi, più e importanti, che continua nonostante quei, esatto, premi alla carriera nostri vogliono essere non soltanto un punto, la fine. Sono dati da viventi a viventi che continuano poi a fare il loro lavoro alla grande, esatto. E insieme a questo ci sarà anche un premio tecnico, per anzi diversi premi tecnici, e quindi daremo visibilità come sempre, come tutti gli anni, anche non solamente alla parte visibile o quantomeno udibile del doppiaggio, ma anche a chi è dietro le quinte. Questo è un aspetto molto molto importante, perché dietro un grande lavoro di doppiaggio non c'è solamente una bellissima voce, una bellissima traduzione, come dietro un grande uomo, esatto, c'è una grande donna, insomma, esatto. No? Non lo so, lo dicevi a me? No, Filippo, sei un bell'uomo, ma no. Vabbè, con tutto il rispetto, mi sono guardato dietro. No, a casa c'erai una grande donna anche tu. Comunque, io oggi però vorrei introdurre un concetto nuovo del Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, che è un premio che per la prima volta facciamo e abbiamo deciso di indire per questa edizione, che è il premio Edizioni d'Autore. Allora, qui va fatta una piccolissima premessa: noi premiamo ovviamente le migliori voci, i migliori direttori del doppiaggio, gli adattatori, ricordando sempre che il doppiaggio, prima ancora che un servizio, prima ancora che una grandissima prestazione d'opera, è un aspetto culturale. Dietro una grande doppiaggio, dietro a tutto quello che noi viviamo del doppiaggio, c'è un lavoro di adattamento, di traduzione e quindi anche di filtro culturale che noi sviluppiamo in maniera assolutamente meravigliosa e magnifica qui in Italia. Tutto quello che arriva in termini di prodotto audiovisivo in Italia arriva gestito, filtrato dai grandi adattatori e dai grandi direttori del doppiaggio che abbiamo in Italia, e questo non può non essere considerato un lavoro che ha a che fare con la cultura, perché noi impariamo dal cinema, impariamo dall'audiovisivo, impariamo attraverso questo linguaggio che ci viene dato anche dal doppiaggio. In questa ottica, uno degli aspetti più importanti è l'aspetto della distribuzione. Chi è che poi decide come viene sviluppato Un film piccolo, esatto, e magari, perché è facile prendere un film grandissimo, L'Uomo Ragno, esatto, voglio dire, scegliamo le voci migliori, il grande direttore del doppiaggio, investiamo dei soldi, ma in realtà il lavoro dei distributori cinematografici, in generale di chi distribuisce prodotti audiovisivi, è anche quello di avere molto coraggio. Noi che rappresentiamo il premio per i distributori qui in Italia, forse il più importante, vogliamo dare un premio al coraggio di questa società, di questi uomini che decidono di prendere non solo grandissimi film, ma decidono di avventurarsi anche in film meno visibili, meno altisonanti, ma che in realtà ci regalano delle emozioni incredibili. Sì, vi consiglio proprio vivamente di spulciare all'interno di queste distribuzioni, di questi piccoli, che sembrano, esatto, piccoli film, ma sono giganteschi da un certo punto di vista. E si è scelto la... Sì, abbiamo... Allora, siamo in ritardo, nel senso che le nomination le abbiamo date... Sono già uscite. Esatto, però in realtà abbiamo ricevuto talmente tante candidature da tutte le case di distribuzione per questa categoria Edizioni d'Autore, che è stato difficile scegliere la terna che poi dopo verrà presentata. Non una cinquina, ma una terna. No, una terna, perché è la prima edizione del premio, è giusto che sia così, ed è giusto anche concentrarsi su questi, sì, film, sì. È un consiglio che noi diamo, io li dico e li introduco molto brevemente. Noi abbiamo il primo, che è Ritorno a L'Avana, che è un film distribuito da, aiutami Pino che sto, eccoci qua un attimo, mi si è perso sulla distribuzione dove ho fatto una elegia. È un film intanto di origine francese, Ritorno a L'Avana, di Laurent Canté, e dura 90 minuti, sì, doppiato benissimo da Ludovico Mutugno, Roberto Stocca, anche questo diretto da Rodolfo Bianchi e della Lucky Red, esatto, dovrebbe essere distribuito della dalla Lucky Red, scusatemi che sono pieno di fogli, sì, non lo, sì, ritrovavo. Ritorno a L'Avana, l'altro, dunque, che il regista poi della classe che vinse, esatto, un film a Cannes, che che consiglio a tutti i romantici del grande freddo di Lawrence Kasdan, perché è un film dedicato alla storia odierna, insomma, dell'Havana, di Cuba, in un momento storico molto particolare. Attori, cast pazzesco, doppiaggio meraviglioso. Il secondo film è The Fighters, Addestramento di vita, distribuito da Nomad, che è un film estremamente coraggioso, un film direi adolescenziale, ma non lo è per niente. La storia di due ragazzi che attraverso un addestramento militare decidono di innamorarsi e di scoprire la vita in una forma completamente diversa. È un film che... The Fighters. Esatto, che va visto soprattutto... Che non è un'americanata di quelle The Fighters che combattono, eccetera. Tutt'altro, un film meraviglioso che tutti quelli che amano i film un po' più leggeri, adolescenziali dell'ultimo periodo dovrebbero vedere, perché è un film estremamente profondo. Non è Twilight, senza nulla togliere a Twilight. È un film diverso, però si rivolge a quel pubblico. E poi Mammi, che è un film della Good Film. Una rivoluzione, questo film è rivoluzionario davvero. Guarda, io sinceramente... Un ragazzo di 26 anni che ha fatto un film pazzesco, sì. Io questo film, mentre ne parlo, ho i brividi, perché è un film... Noi non possiamo fare il tifo ovviamente per nessuno. No, vabbè, non votiamo, per cui... Esatto. Però un grandissimo applauso a chi ha deciso di distribuirlo, perché è un film... Gigantesco, senza nessun nome altisonante nel cast, però un due attrici e un attore giovane straordinari, meraviglioso. Mammi. Veramente un rapporto tra madre e figlio pazzesco, un film che vorrei consigliare a tutti i genitori, assolutamente, sì, e anche ai figli, sai, anche ai figli, hai ragione. Hai ragione. Beh, ma ora, un bel terzetto, dai, un esatto, bel terzetto. L'ultima cosa, noi domani siamo come sempre all'Università degli Studi di Roma 3, al Dipartimento di Lingue, con un seminario sulle edizioni e sull'adattamento, proprio per quello che dicevamo prima, il doppiaggio è cultura. Sì, quindi bisogna parlare. Si gira anche per le università, c'è questo bellissimo binomio, è diventato una cosa osmotica il doppiaggio, finalmente, con braccetto braccio all'università. Diamo anche delle borse di studio per chi vuole approfondire, è vero, questo è vero. Quindi il gran premio è qualcosa che va oltre il premio. Ma ne parleremo ancora, Filippo, insieme a te, ovviamente, da qui al momento che ci divide da qui, e poi anche Radio 24 credo che prenderà la diretta, si parla di questa diretta possibile con il premio. Insomma, beh, comunque speriamo. Radio 24 è il nostro partner, insieme all'Enciclopedia del Doppiaggio, insieme a Posta Paolo, insieme a tantissimi partner. Bene, legati, ha bisogno. Allora signori, bene, io ringrazio Filippo Cellini e tutta la Ince, e ringrazio voi, non ci salutiamo, tra pochissimo torniamo con la grandissima Piera degli Esposti. Grazie. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Voice Anatomy. E come promesso siamo tornati, siamo sempre in diretta Radio 24 qui dagli studi di Roma con Voice Anatomy. Sono il vostro accompagnatore Pino Insegno, sono le 15:48 minuti e 08 secondi in questo momento, e mi ha raggiunta un'altra grande icona del teatro, del cinema, di tutto, anche della radio, perché è tutto. Piera degli Esposti si fa fatica soltanto a raccontarla, se hai poco tempo e tu racconti il suo curriculum è finito il tempo, alla fine la saluti senza che lei abbia proferito verbo. Beh, bellissimo. Noi invece vogliamo che lei parli e ci racconti, che è bello navigare all'interno della vita delle persone utilizzando la voce, che è l'elemento più importante di comunicazione. Sei d'accordo che la voce racconta tutto, più di un corpo, più di qualsiasi altra cosa? Sì, perché io penso che anche quando noi ci ricordiamo Via col Vento e ci ricordiamo la frase che domani è un altro giorno, oppure lui che dice francamente me ne infischio. Per chi ti favi, Piera? Scusami, per chi ti favi? Per no. Claire Gable o Vivien Leigh, da quel punto di vista? Perché noi uomini stiamo dalla parte di Red Butler. Tu non hai preso mai le difese di qualcuno dei due? No, io ho preso le difese di lei. Perché subito. Di Vivien Leigh. No, ma non è per un discorso femminista. No, lo so. È proprio perché lei è stata sempre così strana, anche un po'... è un'attrice che mi ha sempre affascinato, ricordiamo appunto non solo Via col vento, ma anche le sue ultime interpretazioni a Primavera della signora Stone, ma anche quella cosa con Marlon Brando, difficilissima. Stella, lei era Stella, e che lui quasi violenta, così. Insomma, un'attrice indimenticabile. E per quanto riguarda la voce, io penso che anche di Mastroianni tu ricordi la faccia, certamente le grandi interpretazioni, certo, però tu ricordi la voce di Mastroianni moltissimo. Tu chiudi gli occhi e può anche non esserci il corpo da quel punto di vista, perché la voce diventa corpo. Sì, è diventa... bello quello che hai detto. Accidenti. No, è stata solo fortuna. Sei tu che sei empatica in questa e maieutica, e allora riesco a trovare delle frasi, altrimenti i nostri ascoltatori che sono molto attenti. Prima ho detto bugiardello invece che bugiardino, quello che si trova nelle medicine. Ha telefonato subito un professore universitario che gentilmente non mi ha bacchettato, ma ci ha spiegato e ci ha raccontato dalla parola all'etimologia di quella parola, Piera. Però bisogna dire che bugiardello è più leggiadro. Perché questo bugiardino ci fa sempre terrorizzare. Esatto, allora. Adesso non voglio che ritelefoni il professore, però no. È molto molto impressionante, no? Perché tu dici, allora io ho questi effetti indesiderati, allora esistono. Questo non lo devo prendere, allora questo. Ed è una lunga cosa, più del monologo dell'Amleto, il bugiardino è molto lungo. E infatti noi facciamo leggere agli attori doppiatori che vengono ospiti sempre delle cose particolari per far capire quanto può essere evocativa la voce. Prima è stato detto le istruzioni per una cosa molto intima femminile, ma era diventata una cosa splendida, oppure le istruzioni della lavatrice dette con una bella voce, o un risultato di calcio letto da una donna meravigliosa con una voce sensuale. Cambia tutto a secondo della voce, ma tu decidi singolarmente di fronte a una persona com'è quella persona a secondo anche della voce, di come la usa. Insomma, Piera, poi voglio raccontarvi, nasce a Bologna, io vorrei dirlo quando, perché però non lo dico, perché tu ci sei. No, io sono contenta di essere nata. Esatto. Molto. Però per quanto riguarda diciamo la dimensione anagrafica, io non ho una dimensione anagrafica. Per me è così, mi considero un po' piccolo eterno, piccolo, perché così quando sono contenta lo crederò fino all'ultimo. Ecco. Highlander. Ecco, dunque non voglio. Dunque ne rimarrà soltanto una. Senti Piera, tu sei un artista, grazie, come ho detto, a 360 gradi, ovviamente tanto teatro, cinema d'autore, tu hai vinto dei premi straordinari come Due Davide di Donatello per L'ora di religione di Bellocchio, Il Divo di Sorrentino, Il Globo d'Oro per I bambini della sua vita, eccetera. Ma qual è questa storia di questa sartina bolognese? Che cos'è? Beh, io mi considero un po' un caso, perché non sono andata a scuola, diciamo, come i miei fratelli, e sono andata quasi subito, anche se mio padre era terrorizzato che poi io facessi vedere che mancavano, così, che c'erano dei buchi nella mia preparazione culturale. Invece io poi facevo la sarta, andavo a scuola di taglio e la sera vedevo tutti questi intellettuali a cui debbo tanto, cioè debbo i vari Guglielmi, i fratelli Guglielmi e gli Zangheri, i pittori, così, i quali mi ascoltavano, e compreso anche mio padre che mi leggeva la Divina Commedia, accettando che io dicessi Virgilio è cattivo, no? Perché, perché non tira, perché Dante quando sviene lui, diceva mio padre, ma non può fermarsi tutte le volte che Dante sviene, sennò questo lungo viaggio non lo faranno mai. Ecco, voglio dire, mio padre era un paziente e io sono stata molto aiutata da lui e dagli altri, ma come sartina sognavo già di fare l'attrice. Per me l'attrice voleva dire è teatro, invece il teatro poi mi ha rifiutato per tantissimo tempo, voglio dire, sono stata bocciata all'Accademia d'Arte Drammatica, sono stata bocciata ai provini teatrali, radiofonici, sono stata per 10 anni che mi mi sarebbero dovuti adesso. Ma infatti non ti preoccupare, tranquilla, c'è tutto il tempo davanti a te per riprenderti. Questo fa da anche fiducia ai nostri ascoltatori, alle persone che vogliono intraprendere questo mestiere, che non è detto che il grande giudice che ti dà torto poi non ti permetterà invece nella vita di riuscire a realizzare i tuoi sogni. Devi essere proporzionata l'intensità del tuo sogno e ci riesci a quel punto, se ci credi fino alla fine. Da una sartina di Bologna ad una grande attrice che tutti si litigano pur di avere dietro un microfono o davanti a una platea, e io sono felicissimo che tu abbia accettato di fare questo piccolo percorso rispetto alla tua grande carriera. E noi adesso ci salutiamo soltanto per un attimo e torniamo immediatamente in diretta con Piera degli Esposti a tra pochissimo con Radio 24 e Voice Anatomy. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Con Radio 24 è tutta un'altra domenica, con grandi conferme e nuovi acquisti, con una nazionale di grandi nomi. Pino Insegno, Maria Latella, Rosita Celentano e Angelo Vaira, Pierluigi Pardo, Filippo Astone, assieme ai conduttori più noti del palinsesto della radio, Giovanni Minoli, Gianluca Nicoletti, Enrico Ruggeri, Gegè Telesforo, Alessio Maurizi e tanti altri. Una domenica per pensare, riflettere, emozionarsi e divertirsi con le storie, le voci più belle del cinema, la musica d'autore, la grande attualità e il racconto della storia, la vita delle donne e uno speciale processo al calcio che non può mancare nella Domenica degli Italiani. Su Radio 24 la passione si sente e la domenica l'emozione si vive. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Voice Anatomy. Bentornati signori a Voice Anatomy, sono le 16.06 qui a Radio 24 e al mio fianco la grandissima Piera degli Esposti. Abbiamo cominciato raccontando la sua carriera, ma non vogliamo percorrere perché altrimenti saremmo tediosi, poi... saremmo filologicamente giusti, ma noi invece vogliamo conoscere qualcosa in più di Piera, ma soprattutto di quello che sta succedendo adesso a Piera degli Esposti. Sono due cose molto ma molto importanti. Intanto uscirà un altro film molto importante di Laura Morante, sì, che è A Solo proprio. E qual è il tuo ruolo in questo film? Intanto di che parla questo film? Intanto il film è Laura Morante, è una donna insomma sfortunatissima, oggi si userebbe un altro termine, ma dirò sfortunatissima, con gli uomini, con gli incontri, così ha molte amiche che non sono sempre, dunque è un film anche corale, però ha come linea di la sua psicanalista, che sarei io, è la prima volta che faccio una psicanalista, una che si chiama l'importante è che te lo sei ricordata all'interno del film, no, meno male, no, è un nome indimenticabile di qui, è una tedesca. Fräulein qualcosa, Grunewald, ecco perché sì, non te lo ricordavi, ecco per questo, per cui poi sono un momento diciamo di personaggi così diversi, perché sto per fare anche una suora. E, non so se vi ricordate quelle due suore che rimasero chiuse 3 giorni in ascensore, è una storia vera che successe qua a Roma, sì. E da lì gli allievi del centro sperimentale hanno immaginato un corto dove insomma sono suora insieme intenso. A un'altra novizia. Mi ricordo un po' il film, quello che dicevi prima della psicologa, quello di Woody Allen, che era un'altra donna, sì, con la grande Gina Rowlands, la moglie di John Cassavetes, dove attraverso queste parole raccontate e origliate da una terza persona si riusciva a tratteggiare la vita di quella persona che andava dallo psicologo. Sì, sì. Per cui è un film che uscirà a breve, un altro film intenso. Il 5 gennaio, sì. Il 5 gennaio, un'altra cosa che magari ti porterà a casa, un altro pupazzetto, come li chiamava Monicelli. Monicelli diceva: ho vinto un altro pupazzetto, che era un premio, che lui aveva sempre questa grande ironia di raccontare dei premi anche molto importanti, pur apprezzandoli, viveva con grande autoironia e con grande ironia. Ci ha salutato, sembra, insomma, all'ultimo sberleffo. Sì. del grande Monicelli. E poi subito dopo anche un'altra cosa meravigliosa, che è Bravo lo stesso. Che cos'è Bravo lo stesso? È dedicata a te, che cos'è lì? Dunque, una frase di De Chirico, sì? Cioè, che De Chirico disse quando mi vide in queste specie di garage cantine che andavano negli anni 70, e io ero vestita da ragazzo, da uomo, e dunque mi dissero: c'è De Chirico con Corrado Auge che l'ha portato così e vorrebbe conoscerti. E lui mi ha detto: bravo, sei stato molto bravo. Allora io mi sono tolta quel berretto che avevo da marinaio e ho detto: ma guardi maestro, che io sono una femmina. E lui ha detto: bravo lo stesso. Ed è stata una cosa indimenticabile, perché è come se mi avesse detto: accetta la tua diversità. Non è. Per cui questo è venuto fuori un libro che sta andando molto bene come vendita. Adesso non voglio parlare in questo modo così, no, un po'. Però è un libro che in verità sarebbe un libro proprio di quelli che si tengono nelle biblioteche, ecco, e che vede me vestita da uomo in copertina, e che è stato scritto da Manuel Giliberti, e che è poi tutta la mia carriera, il mio lavoro, dalle cantine a quando poi sono andata al Teatro Stabile dell'Aquila con Gigi Proietti, così, con Lavia e tanti altri, e poi quando ho fatto Molly Bloom, eccetera, eccetera. Ecco. E cosa cerchi in questi rapporti interpersonali, quando conosci queste persone? Che cosa rubi, che cosa cerchi di dare, che cosa cerchi di prendere? Ma io faccio molta fatica a non commuovermi o stupirmi, perché sono persone che sono nella storia. Io sono così, non faccio caso al transitorio. Mi piacciono quelli che so che rimarranno o che entreranno nella storia. E poi tu, proprio per questo, riesco a legare questa bellissima tua lunga amicizia con Dacia Maraini, con la quale peraltro hai scritto anche un romanzo che è Storia di Piera, sulla tua gioventù, e che poi è diventato anche un film del grandissimo Marco Ferreri. Veramente, che non dovrebbe essere dimenticato, ma speriamo che quando sarà il ventennale, fra due anni, penso così, che tutti vedano che cos'è stato questo profeta. Ecco. Sì, tu hai conosciuto molto bene il maestro Ferreri. Io l'ho sfiorato in un turno di doppiaggio, non doppio film italiani, ma quando si è trattato di conoscere Ferreri come Fellini, mi sono reso disponibile per condividere almeno 3 ore della mia vita. Tu ci hai condiviso qualcosa di più di 3 ore della tua vita con Marco Ferreri, immagino. Sì, no, io lo amavo moltissimo già i suoi film. E lui l'ho amato dopo, ma insomma, ecco. Io l'ho amato dopo, è bellissimo. Hai prima amato i suoi film, ma tu hai condiviso veramente la storia con persone che hanno fatto la storia, tu la stai continuando a fare. Come hai detto prima, è bello condividere queste cose con persone che hanno fatto questi percorsi straordinari, come Lucio Dalla. Sarà stata Bologna, Galeotto, che fu Bologna o Galeotto fu una canzone? Che cosa fu di Lucio Dalla che ti ha colpito e poi hai amato anche lui? Per me il fatto di averlo conosciuto a 6 anni, perché 6-7 anni, perché facevamo le elementari insieme. Dunque, qui si può risalire alla tua età. Sì. Attenzione, Piero. No, accidenti. Accidenti, hai dato un punto di riferimento. Adesso tutti su Wikipedia a vedere quanti anni avrebbe avuto adesso il grande Lucio. Quanti anni faceva le elementari? Eccolo là. Allora, come sei bravo, così veloce. Sono meno veloce. Però sono felicissima che Lucio sia stato o io vicino a lui o lui vicino a me, sempre, perché stavo anche a casa sua. E dunque lui amava molto Molly Bloom, un monologo che io ho fatto, sì. Molly cara, e dunque veniva sempre, una volta è venuto anche coi guanti di pizzo per dirmi: guarda che ho i guanti di pizzo. E dunque veniva a salutarmi, e questo è stato una cosa per me è indimenticabile, una fortuna che diciamo. Ma tu, anche De Filippo ti ha definito o verbo nuovo quando ha visto, sì, Molly Bloom, se non sbaglio. Sì, mi ha molto colpito il fatto un altro piccolo personaggio che ha raccontato qualcosina, no? Che ha lasciato qualcosa, una piccola traccia nella tua vita. Io volevo domandarti una cosa che è molto intensa, però dobbiamo andare ancora una volta in pubblicità, se non sbaglio fra pochissimo. Vedete, passano 15 minuti, volano insieme a te da questo punto di vista. 15? Sono passati sì 12, 13 minuti ancora, ma staremo altrettanti insieme, perché volevo chiederti, questi incontri, tutte queste cose, c'è un luogo comune che non è un massimo comune divisore, che è l'amore. Volevo chiederti proprio questo, ma te lo chiederò fra pochissimo, perché voglio sapere che cos'è l'amore per Piera degli Esposti in tutte le sue declinazioni, come Voice Anatomy racconta la voce in tutte le sue declinazioni. A tra pochissimo, grazie. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Voice Anatomy. Voice Anatomy, eccoci tornati, sono le 16:16 con Piera degli Esposti, stiamo per quando ci vorrebbe veramente tutta una giornata meravigliosa insieme. Stavamo parlando di questi grandi incontri della storia, che hanno fatto la storia, che hai fatto la storia, un po' tipo Obbedisco, quando si incontrarono laggiù quei due bei signori che hanno unito poi l'Italia. Io volevo chiederti proprio di questo, Piera, questi grandi uomini con cui hai collaborato, hai lavorato, hai amato, che cos'è l'amore per Piera degli Esposti? Beh, intanto io mi innamoro del fascino di una persona, cioè, ecco, diciamo che parto innamorata dell'amore, cioè c'è una disponibilità, c'era, adesso sono più saggia. Beh, comunque però non è che sia proprio indifferente ecco, alla questione, no. Ecco, mi sembra l'unico dispiacere è che dopo aver conquistato, sono stata una conquistatora, ecco, dopo aver conquistato e mi andava via questo uomo dalle proporzioni gigantesche, diventava prima con la testa piccola, poi col corpo piccolo, poi, e poi un affetto e non mi piaceva più. Questo è il discorso proprio, penso, del conquistatore vero, ecco. Sì, innamorato più dell'amore a quel punto, sì. Costruivi il fantasma che volevi su quel corpo e poi piano piano lo smantellavi fino ad abbandonarlo, per cui hanno sofferto, hai più sofferto o hai fatto più soffrire a questo punto? No, io ho fatto più soffrire, ecco. Però mi sono anche molto pentita. Oggi, vabbè, no, dico perché riprenderei alcuni di quelli buttati insomma. Ma buttati. Perché adesso c'è poi una declinazione della spazzatura, per cui non devi buttare tutti nella stessa contenitore, magari qualcuno andava buttato diversamente. No, ma non è solo per quello, è che il mercato si dirada, il mercato, insomma, diciamo, certo, ecco così, disponibile. Non è più così quando sei una donna matura, non è più così una ressa e di conseguenza alcuni li riprenderei perché sì. Loro sarebbero d'accordo, sicuramente. Sicuramente, perché vorrebbero magari a quel punto vendicarsi di qualcosa, oppure perché non hanno finito di amarti. Beh, da quel punto questo è possibile, però io penso che in questo momento la nostra società è molto legata alla giovinezza, inteso in senso la paura, per cui il lifting, tutte cose che mi sono strane, ma insomma, tutti i tentativi da parte di uomini e di donne di allontanarsi dalla maturità, dalla vecchiaia. Dunque oggi diciamo che è più difficile per me, perché ho una società contro una dimensione anagrafica. Ecco, questo. Come disse un grande presentatore americano durante la serata degli Oscar, proprio per prendere in giro una situazione sempre più galoppante, disse: vedo con piacere molti visi nuovi su facce vecchie. Oh, sì. Ed è stata straordinaria. Questa cosa è bellissima. Non lo sapevo. Sì, durante gli Oscar, diede questa botta fortissima a tutte queste plasticità. Che, ha ragione, perché questo della plastica, vorrei dire una parola, impedisce poi al dentro di venire fuori. Eh sì, perché dunque, ti blocca i nervi, tutto il sole che abbiamo dentro e là non splende più perché ci abbiamo messo una maschera. Che poi sono maschere che si assomigliano tutte all'ultimo, perché rischi veramente. Ma comunque abbiamo parlato di amore, di queste cose, di questi corpi dove tu hai costruito qualcosa per poi smantellarlo, ma c'è un nome che non si può, uno può far finta di niente, Robert Mitchum. Che è successo lì? Perché è strano queste. No, quello è innalterato, perché è stato amato da me quando avevo 14 anni è stato continuato, diciamo, lo ma l'hai amato dal seguivo. Punto di vista iconografico, sì, oppure sì, c'è stato un incontro poi passionale? No, c'è stato poi un incontro meritato, perché è stata Lina Wertmüller che ha fatto una cena dove lo ha invitato, lui si trovava in Italia e mi ha detto: Lina, vedi che sorpresa che ti ha fatto la tua amica, e io ero così anche impaurita che non mi piacesse che fosse ubriaco, che fosse cose. E invece devo dire la verità, un pezzo di Marcantonio così, ancora con quella camminata coi piedi in dentro, quel modo dondolante di camminare, che quando è arrivato, francamente, siccome gli avevo scritto una lettera, Lina Wertmüller mi ha detto: poi porta la lettera da leggere, e io mi sono messa a leggere questa lettera, e lui era molto divertito, e io ero così lì con le mani nelle sue mani. Meno male che ci sono le foto e ci sono tutte le, ci siamo anche baciati in modo classico con la lingua, insomma. Esatto, anche, sì. Puoi dirlo tranquillamente, sì, insomma, sì, cioè, sono stata anche, ma tutto quella in sera... braccio lui, sì, in braccio così, quando eravamo sul divano. Lui avrebbe voluto continuare, però no. Sai, un sogno è bello così, col palloncino che rimane azzurro così nell'aria. Tu dici? Poi io l'ho fatto appena in tempo, perché moriva 2 anni dopo, ma però... Quanti anni aveva Robert Mitchell? Molto giovane. Penso 74, non mi ricordo, ma ancora era con quel torace, un armadio dove mettercisi dentro. Sì. Per cui hai vissuto, non hai avuto tempo di smantellarlo, ci ha pensato poi la natura a smantellare il grande Robert Mitchell. Però io a questo punto faccio proprio una... chiamo Lina Wertmüller, se sei in ascolto, credo di sì. Io ho una lettera per Sharon Stone, adesso non so se tu organizzerai una cena a casa, lo sto dicendo, mia moglie mi starà ascoltando, ma mi perdonerà come io ho perdonato lei quando andò a vedere Al Pacino e rimase con Al Pacino a parlare nei camerini. Però gli ho detto: qualsiasi cosa accadrà con Al Pacino sappi che ti perdonerò, perché non può, insomma, a quel punto è un uomo, anche lui un uomo di 70 anni, per cui diciamo che non andavo dal punto di vista fisico o fisiologico il contrasto, ma se incontri un'icona del genere, dico, sul divano abbracciati e un bacetto con la lingua, ci sta, ci Piera, sta. Ci sta. Senti, dunque, ma... sei preparato? Sto preparato con Al Pacino, devo dire. Beh, le corna d'Al Pacino me le prendo volentieri, insomma, diciamo la verità. Meno male, perché tu tieni dato... per il fascino. Ah, ma il fascino è fascino, insomma. Io ho dato un bacio anche sulle labbra già un'altra volta, non mi vergogno di dirlo. Oh, bravo. Siamo baciati, siamo salutati in una trasmissione. Ormai mi porti, vedi, un outing, ma non è un outing, è stato momentaneo, insomma. Però c'è stato un attimo così, complimenti, good luck, bacetto sulle labbra, ci è rimasto sto bacio. Dalla febbre del sabato sera, non ci sentiamo più ormai da 20 anni, ma insomma, non credo di mancargli. Senti, no. Se dovessi toglierti un sassolino dalla scarpa in tutte queste stagioni della vita, che saranno anche tanti, c'è qualcosa che vorresti dire che non hai detto? C'è qualcosa che ti ha dato fastidio e non hai avuto il coraggio magari in quel momento di rivelarlo, e adesso magari ti senti libera di farlo? Rifaresti tutto? Beh, io direi che sono arrabbiata quando non conquisto, e dunque detesto, arrivo anche proprio a pensare di uccidere la persona che non è stata conquistata, insomma un po' una Turandot ero, adesso meno. Beh, il sasso dunque che mi tolgo è quello che ce l'ho con quelli che non sono stati carini al mio fascino, ecco, non sono crollati davanti a te, sì. Per cui che, se dovessi proprio riscrivere la tua vita, cos'è che non rifaresti, oppure lasceresti tutto invariato che ti ha portato fino ad oggi con questa grande forza e grande esperienza? No, io voglio fare il commissario. Vuoi fare il commissario? Sì. Ma nella vita, in una fiction, io spero. In una fiction. Ah, ok. Allora spero di non odiare tutti questi che me lo stanno impedendo, ecco. Ti stanno impedendo di essere un commissario, perché a una certa età un commissario va in pensione, tu dovresti essere il commissario che collabora, sì, magari dall'esterno, però, in outsourcing, sì, come si dice in comunicazione. Sì, però è molto giusto per me che una persona della mia età faccia un commissario, o faccia, o sia una Miss Marple, o sia una, anche una Fletcher, cioè voglio dire, io sono più giusta di tutte quelle che lo hanno fatto. Ma in effetti hai fatto tutto, perché sei stata anche regista di teatro dell'opera, di opere liriche importanti, sì, cinema, ma... teatro, editoria, sì, insomma, sì, ti sì, manca, sto commissario ti manca. Mi manca perché sono portata all'indagine, ecco. l'indagine soprattutto quando conosci le persone, però mi sembra di capire che tu invece fai d'impatto quando conosci una persona, glielo butti addosso e poi comincia l'indagine. Prima lo diventa magnificenza e poi comincia l'indagine. Attenzione, gli ho dato un carattere che forse non ha e non mi interessa, via. Uno sguardo l'ho trovato molto intenso, ma glielo ho dato io, via lo sguardo, e cominci lo smantellamento. Tu hai conosciuto tantissime persone, lo stiamo raccontando. E Pasolini, che ricordo hai? Adesso si sta anche vivendo un momento importante, ti ricordo che dovrebbe essere quotidiano su un uomo, sì, come Pierpaolo Pasolini. Sì, dovrebbe essere quotidiano perché lui ci ha difeso e non ne aveva bisogno, perché era un uomo molto, molto noto, molto letto, molto visto, molto seguito. Eppure lui ha difeso noi e continuamente, diciamo, addirittura non nelle riunioni, nelle strade, nelle cose. Cioè, questo ci deve mancare. Una persona come lui, che invece di stare a discutere su come viveva la sua vita privata, dovremmo discutere sul fatto di come ci amava, di come ci difendeva. Questo. Quanto lui amava la vita, amava gli altri, gli altri, tutto e per tutto. Era gli una persona altri, veramente... A 360 che non ha avuto paura di dimostrare e mostrarsi quello che era, da tutti i punti di vista, dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista sessuale, dal punto di vista dell'uomo. Adesso, adesso capiscono, ma quando appena è morto era tutto un discorso e se l'è andato a cercare. È stata strumentalizzata, quasi... strumentalizzata. E poi lo sappiamo meglio di chiunque altro. A un certo punto la destra prende una posizione, la sinistra gli risponde in un altro e non si considera più che l'uomo era al centro del suo universo ed era al centro del nostro, perché come dicevi giustamente tu, hai detto tu, ci stava aiutando, ci stava, sì, portando per mano. È stato il primo poi in certi documentari in anticipo sui tempi a far capire dove stava andando Roma, addirittura con le con l'edilizia, sì, anche, sì, in quello era riuscito ad anticipare i tempi. Ma infatti in sia lui che Ferreri in modo diverso, sì, sono stati abbastanza profetici, però non è che sia stato capito subito. Però, adesso speriamo che, ringraziando il cielo, vengono, sì, ripresi sempre e comunque, perché sono personaggi veramente che hanno raccontato e raccontano tutto e hanno qualcosa da dire nonostante non ci siano più. E tu invece, anche io starei ancora a parlare con te, no, dell'amore, di tutto, però visto che siamo in chiusura voglio ricordare ancora i tuoi progetti di adesso che sono molto importanti. Il 5 gennaio, se ricordo bene, uscirà questo film di Laura Morante, un'altra, sì, straordinaria interprete che spero di avere dietro questi microfoni dal punto di vista proprio soltanto vocale, non come Robert Mitchum sul divano, anche se Laura è una donna meravigliosa, sì, e questo A Solo, questo film molto interessante, sì, dove tu sarai una psicologa, non commissario, non commissario, sì, ma psicologa. E poi Bravo lo stesso, da questo grande complimento di De Chirico, di te marinaio, uscirà, esce, c'è questo libro che sta andando, sì, meravigliosamente, sì, molto, bene, sì. C'è un'altra cosa che è Bolle in pentola, mamma mia, no, tanto. Che Bolle in pentola, diciamo, c'è questa suora, questa suora in questo corto, c'è un uomo? C'è poi, qualcosa? No. C'è un amore? Quello voglio sapere, non sono gossiparo. No, ma perché... quando parlo di amore con te è A con la A maiuscola, M maiuscola, no. O maiuscola, R e maiuscole. Beh, ma io voglio sempre che la mia fantasia sia abitata e desidererei che tutti voi foste sempre con la fantasia abitata, perché la depressione quando viene ci toglie le immagini, invece la fantasia quando è abitata è piena di immagini e naturalmente anche quello che ci piace. E allora, in quel momento mi sembra, ecco, il messaggio giusto per salutare Piera degli Sposti, abbiate questa fantasia ma soprattutto che sia abitata. A tra poco con un altro straordinario ospite qui a Voice Anatomy. Grazie Piera degli Sposti, grazie tanto. Deborah, ti piacciono le favole? Ma certo! E allora è arrivato il momento di dimostrarlo scrivendone una per Natale. Ma chi la scrive? È il nostro amico Andrea Vitali, insieme ai nostri ascoltatori, vero Andrea? Sì, dal 1 al 24 dicembre io darò un incipit nuovo, così gli ascoltatori potranno completarlo scrivendo un pezzo di favola sul sito di Radio 24. E il migliore verrà letto in trasmissione e riceverà il nostro libro intitolato Secondo Canto di Natale. Siete pronti? Voice Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, Voice Anatomy. Al mio fianco mi ha raggiunto il finalista, è veramente il vincitore morale di Tu sì che vales, l'amico Antonio Mezzancella. Buon pomeriggio. Ecco, con la sua voce, con la mia prima voce. Volta. Questa è la voce di Antonio Mezzancella, sarà l'unica volta che la sentirete. Esatto. Sentitela adesso perché non la sentite più. Mai più, questo dipende, poi gli imitatori uno non è abituato a sentirli, quando parlano ormai dice Madonna, esatto, però è moscio questo. Fa schifoce schifosa. Cioè, tu dovresti veramente essere posseduto tutti i giorni a casa e esatto, parlare con i tuoi figli. Tu sei poi solo platonicamente parlando, chiaramente. Assolutamente. Poi sei giovanissimo, insomma. Sì, 35 anni e non sentirli. Sì. Perugia, io pure sono sordo da quel lato. Non voglio non lo voglio neanche dire. Sei nato nel 80, Perugino dei Perugia. Però non si sente, non si sente. Però si sente, non si sente. No, se ci faccio attenzione, riesco a. Ormai dovresti vivere con un esorcista vicino. Esatto. Hai portato, sai, ovviamente hai percorso tutti gli step che deve fare un attore, un imitatore, un presentatore all'interno del mondo televisivo e radiofonico, perché sì, è inutile che racconto dove sei stato, l'importante è che adesso sei che qui, sono qua, cioè, sei qui come con tanto di chitarra. Questo è il culmine della mia carriera qua vicino a te. E io ti ringrazio, c'è un po' di falsità nella tua voce, calcola che io faccio comunicazione non verbale e programmazione neurolinguistica e tutto questo, ma penso cacciate via Mezzancella, richiamate Piera degli Esposti. No, sto scherzando. Allora, carissimo Antonio, io comincerei con qualche vocina, visto che i nostri ascoltatori, qualcuno dice ricordo ogni tanto con chi stai parlando, io lo dico ogni due secondi, non è che posso blaterare di chi dice, vicino a me Antonio Mezzancella, Antonio Mezzancella. E allora, visto che abbiamo ancora 12 minuti e poi un altro blocco con te, chiudiamo con te ovviamente queste mezz'ora insieme. Ramazzotti, visto che ho una chitarra, bene, esatto, casualmente. Decidi tu poi. Non chiedi libertà. Sai, non sono io a incatenarti qua. E per se radio è Ramazzotti, vero? Va già libero da sé. Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire? Un angelo disteso al sole che è caduto qua. Nuda verità. E fa l'amore anche l'anima. È fantastico perché voi dovete vedere, tanto ovviamente lo racconta come lui canta, non è che fa un centone sulla canzone, ed è questa la cosa straordinaria, ma voi non vedete e ascoltate, pensate che sia un disco di Ramazzotti, ma vedete anche l'impostazione, la voce, perché è importante, sì, ma l'impostazione anche della bocca, perché tu in questo momento assomigliavi a Eros Ramazzotti. È fondamentale quello. Come cambia la bocca? Com'è? Allora, lui è spostato un po' innanzitutto con tutto il collo, tutta la testa un po' all'indietro. E ti porta quando a alleggerire. Esatto, ti porta ad alleggerire. Non è la voce nasale che tutti tendono a dire. No, canta di naso. No, lui spinge di diaframma e anche di brutto. Sì, però poi va a focalizzarsi qui, esatto, in maschera. Si focalizza in maschera. Però leggermente dietro anche. È una cosa strana che io non so spiegare bene, tu saprai spiegare meglio, no, io lo faccio in, e basta. In maschera si dice perché noi abbiamo queste cavità nella faccia dove facciamo risuonare la nostra voce, oppure la facciamo risuonare nel petto, oppure la facciamo risuonare in gola. Ecco, per cui lui riesce a cogliere dove ha messo la voce Ramazzotti e ce la infila pure lui, da questo punto di vista. Per cui... Esatto. Eccetera. Poi la cosa che mi ha divertito molti, anche Renga, per esempio. Renga è uno che non hanno fatto in tanti, perché non è, dice, beh, non ha particolarità, è un bravo cantante, è un bravo uomo, ma non ha, è una persona molto carina. E però dici, non l'ha imitato nessuno perché sembra non abbia caratteristiche. Esatto. Poi senti Mezzancella e ti accorgi che invece anche Renga ha il suo perché. Un'altra immagine di te, un nuovo modo di vedere le cose. Il vibrato è importante. Con una che non sai, e con un modo di parlarti d'amore. Vedi questi percorsi della voce nella faccia. A te che cerchi di capire e che provi a respirare aria nuova. Non sai bene dove sei e non ti importa anche se in fondo lo sai che ti manca qualcosa. E questo è bellissimo, Renga, mancava la sua compagna. Poi io ogni tanto so come, ma come può pronunciare risuonare con la S sonora? Ah no, questa è un'altra cosa dedicata a Piera degli Esposti, perché questo non mi sembrava che risuonasse. Se volete potete partecipare, ovviamente attivamente lo state facendo con i vostri sms al 349-238-6666 oppure al numero verde 800-24-00-24 per partecipare in diretta se volete, ma loro ci ascoltano, sono ci ascoltano, ah, sì, quello sì. Tantissimo. E senti, quando è cominciato questa avventura nelle voci? Quando hai scoperto, quando dicevi, racconti le favole? Allora, poi tu hai due, sì, figli, due figlie, nonostante due figlie. Così giovane, due figli. Infatti racconto favole, faccio voci di tutti i cartoni, rifacciamo delle scenette a casa. Ma non è che tua figlia quando sente un disco di Ramazzotti dice senti papà sta cantando. Sì, infatti c'è un po' di confusione. C'è questa situazione. Cioè, allora papà, ma non sei miliardario? No, no, no, papà, quello no. È un altro. Allora quello è il fratello, esatto. quello ricco, quello vero. Io sono quello povero. Quanti anni hanno le figlie? 7 e 5. L'età giusta per raccontare ancora le favole. Esatto, sì. Anche sì. Se anche noi dovremmo ascoltarne un po' più. Non fa mai male, io no. Me li riguardo i cartoni animati. Quando hai cominciato a imitare, a scoprire questa tua versatilità? Allora, io fin da piccolo ho sempre imitato, ho iniziato a cantare e ad imitare parallelamente. Poi ho unito le due cose, e tipo quando avevo 12-13 anni, siccome mia madre si ascoltava sempre Fabio Concato, Fabio Con... ma grande a Fabio. Palla continuamente. Ma che dono, allora, lo fai, allora, Fabio? Sì. Allora, c'era sempre questa cosa. Il mio stretto con la voce. Tu con che la voce. Sei notato, c'è sempre il sole. Sopra un deva, sopra uno scoglio che ci si può tuffare. E quel sole c'è là dentro il cuore, sole di primavera. E su quello scoglio immagina c'è un fiore. Oddio, che ricordi. Poi dice delle robe. Sì, lui è sudamericano. Diventa sì, immediatamente. Sì, sì. Ah, Concato è un'altra persona deliziosa, in grande ironia. Io ho avuto il piacere di incontrarlo. Ed è divertente che mi raccontò un giorno di sé che a un concerto stava al centro Italia in Umbria. Fa: che sei con il cantante? E lui ha detto: sì, sono io. Che magan di Roma Capoccia? E lui ha detto: veramente, guardi, quello è un altro. E un altro gli ha chiesto, lui cantò Guido Piano, sì, sì. Bellissima, no? Come fa? Guido Piano. Guido Piano. Bellissimo. Io qualcosa dentro al cuore. E un signore disse: senti, che me la può cantare Quinto Piano, per favore? E lui dice: non faccio il Quinto lift. Piano. Esatto. Che si è rotto l'ascensore. Esatto. Queste furono parole del grande Fabio Concato, che tanto che non incontro. Ecco. Ma bellissime. Per cui, vedi, anche qui stava cambiando la conformazione della bocca proprio per cercare sì. di imitare. Qual è stato il primo che hai imitato? Il primo cantante è stato proprio lui. Concato? Sì, sì, sì. Ah, perché c'era mamma sì, proprio perché, che stava... Esatto, poi adesso gli è passata questa fissazione. Però è bella tu perché sei giovane, ma Fabio Concato è straordinario. Ma dei viaggi in autostrada di continuo. C'è la canzone dedicata al papà che è meravigliosa, adesso mi hai aperto un link affettivo, sì, forse primordiale, però sono grandi cantanti, sono quelle persone, grandi professionisti che vale la pena imitare perché sì. hanno una caratteristica, poi chi imiti? Chi ha una caratteristica. Chi ha una caratteristica, altrimenti no, non riesci a prenderlo. Eh sì, poi sono quelli inimitabili. Qualcuno straniero sì. li fai? Non lo so se fai molti italiani. Sì, sì, sì, faccio anche stranieri. Ma quelli vediamo nella seconda parte. Okay. C'è stata una diatriba, fa Mica. Ah, Mica, a proposito sì. di... I could be brown, I could be blue, I could be violet in the sky, I could be awful, I could be purple, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be me, gotta be everything. Senti, mi hai fatto qui il sì. nostro amico comune che mi sta accompagnando dall'inizio, che è Mario Audino, che è anche un tuo amico. Sì, grazie sì, a lui sì. poi che ci siamo sì. incontrati. Grazie, che è stato Mario. Mio compagno di avventura, mi veniva difficile dirlo, ma abbiamo lavorato insieme in un momento particolare, ma non è luogo nel momento di raccontare, però è un caro amico ed è rimasto tale. Sì. Bravo autore, mi diceva giustamente che il passaggio poi da Concato all'amico Enrico Ruggeri, il mio gemellato dal punto di vista del tifo, allora, ed è anche diciamo che un collega qui a Radio 24 dove fa mi stai rubando la trasmissione. No, lui fa a me. No, lui fa quotidiano e poi c'ha delle repliche anche, come il grande Enrico. con gli occhi bene aperti chiediamo un po' d'amore alla persona che vorremmo fare rimanere, e ci facciamo male se la pressione sale, poche parole ci precipita il morale giù. Ci vediamo a Radio 24. Oddio, se ci fosse in ascolto in questo momento. Lui ci ascolta, perché però c'è il campionato in atto, c'è... No, però l'Inter gioca serenamente domani, serenamente non lo so perché non so i risultati, dopo ci colleghiamo con i nostri amici. Io sono sereno perché fra due ore, se devo perdere, perdo fra due ore, non adesso, per c'è cui... tempo per perdere. Sempre tempo, è fantastico. Senti, Mengoni, Mengoni, lui poi è strano perché quando cantano c'è sempre lo sguardo che ora a casa non si vede, ma però ce l'ha sempre, è perso che un si po'. Guarda, sì, esatto. Sostengono gli eroi se il gioco si fa duro da giocare. Beati loro poi, se scambiano le offese con il bene. È tutto, cioè, un po' così. Anche lì è bello perché a quel punto potevo dire signori ospiti qui a Voice Anatomy, l'amico Mengoni cantava. Poi c'è, oddio, ma sta entrando Eros Ramazzotti. Stavo zitto, sì, non dicevo che eri tu. Ci facevi il figurone. Come si dice, facevo una gran figura e non avrei mai detto. Magari loro avrebbero telefonato dicendo: ma che dici? Certo, non è vero, eccetera. E quindi si andava in tribunale. Tanti però sono i messaggi, voce eccezionale da brividi. Bravissimo. Grazie. Complimenti, sembravano quelli veri. Genio addirittura. C'è anche un genio. Non esprimo i desideri. Ci sta. Genio, non della lampada. No, lo dico, appena detto complimenti, vabbè, i complimenti poi, finché non sono insulti, va no, bene. No, ma poi... io leggo soprattutto gli insulti, ma esatto, dedicati a me li leggo sempre, okay. Volentieri, e ricordo ogni puntata l'insulto più bello da quando faccio questa trasmissione. Il top insulto è stato... Top insulto, e poi andiamo in pubblicità, è stata una signora qualche puntata fa che ricordo con enorme piacere, dice: finalmente Pino Insegno, la domenica su Radio 24 io posso permettermi di fare le pulizie a casa e accendo l'aspirapolvere perché avete la stessa voce. Meraviglioso. È bellissimo, lo ricordo ogni domenica perché uno deve aver presente, soprattutto le critiche da quel punto di vista. Allora, signori, siamo giunti quasi al termine, ma stiamo ancora, dopo questo blocco pubblicitario, insieme ad Antonio Mezzancella e soprattutto insieme a tutti questi personaggi straordinari. A tra poco con Voice Anatomy. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta... Voice Anatomy. Stiamo chiudendo alla grande qui Voice Anatomy, ci è venuto a trovare Eros Ramazzotti. Stavo un dio. E Mengoni. Sostengono gli eroi. Mica. Non seri. Allora, benvenuti, soprattutto la mattina, con questa voce. Beh, abbiamo un po' tutti, sapete, Voice Anatomy è diventata una trasmissione più che ambita, credo rimbambita. Perché sono io che la conduco, quello è il problema. Invece no, è Antonio Mezzancella che ha direttamente a casa, insieme alla moglie e alle bambine, un esorcista che lo aiuta ogni tanto ad uscire, chiaro, da questo, chiaro, quadripolarismo, perché ormai di questo si tratta. Sì. Qual è l'ultimo successo vocale che hai, che ancora devi però far sentire, che stai studiando, senza farcelo sentire, se ancora non è pronto, ovviamente. Che sto studiando un po' i nuovi, tipo Fedez, tipo cantanti questi ultimi, questi hip hop, che vanno, piacciono, quindi Fedez, prossimamente. Sì, sono abbastanza non facili perché comunque hanno quella stessa cantilena quando cantano, esatto, quel modo un po', quindi siccome tralasciato, sì, buttato, come esatto, si dice. E poi senti, sì, invece un pezzo, mi dice, qui c'è il mio autore Mario che conosce perfettamente Antonio, e dice: c'è un momento molto divertente, una diatriba fra Ferro e Ligabue. Sì, sì, praticamente loro con lo stesso accompagnamento hanno fatto due canzoni, tipo quello che fa: ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Scatterò una foto, ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa, nel comodino zona mina, tu si le dà un 6000 watt, perché piccola potresti andartene dalle mie mani, esci da questo corpo, e i giorni da prima lontani saranno anni, e ti scordo ricorderai di me. Mi sto facendo un po' di posto e chi mi aspetto, chi lo sa, e posto vuoto ce n'è stato, ce ne sarà. Ho messo via un bel po' di cose, ma non mi spiego mai perché io non riesca a metter via te. E poi torna lui. Ho messo via una foto. Tutte due. Le mischia. Grandioso. Qui ci vorrebbero gli applausi, caro Valerio. È in assolvenza. Applausi spontanei. Sì, perché sai, la radio è bella, parla poi con il pubblico. Mio amico Luca Barbarossa, infatti, come altri, fanno la radio insieme al pubblico. E sarebbe carino averli, avere qui. Ci dobbiamo allargare un po' di più. Ma sì, questo, ecco, Mezzancella lo vorrei tanto ascoltare tutti i giorni. Beh, Pino, siete fantastici tutti e due insieme. Sì, ma è lui che canta e che suona. Potrebbe presentare dopo. Questo per lui puoi fare tutto, non me lo lasciate scappare. No, adesso lo leghiamo a Radio 24. A meno che dovremmo parlare col direttore che gli dia poi una cosa stabile dal punto di vista economico. Tanto ho trovato parcheggio, quindi posso rimanere. Puoi rimanere tranquillamente. Sì, strisce bianche, incredibile. Ma devi chiudere pure il contratto, perché altrimenti deve scappare, perché c'ha una famiglia pure lui. Vabbè, dai, a Roma, lui... però è importante il parcheggio. Prima cosa è fondamentale. Lo dico sempre a teatro: quando tu fai teatro, non puoi deludere la gente, ma no, perché è brutto e panunto. Non tornano perché devono levare la macchina sotto casa, esatto, che hanno parcheggiato. Esatto. Trova parcheggio vicino al teatro, riprendere la macchina e ritrovare il parcheggio a casa, che è la cosa più impossibile. Esatto, per cui è quello il problema dei romani, è il vero. Parcheggio è il parcheggio. Poi dici che c'è, ma ho capito, veniamo invece Frexinata, ho capito, però ma il parcheggio, sai che lì si parcheggia al sistema. Esatto. E questa o Frexinata fa centro commerciale, se no niente. Arrivederci. Grazie. Senti, anche dei colleghi attori comici, prima vi parlavi di Aldo, Giovanni e Giacomo, sì, che riesci, sì, sì, a per esempio la fantastica scena in cui lui scende dalla scogliera, che inizia: ma porca miseria, non posso né scendere né salire, né scendere né salire, rimango qua. Dai, metti il piede là dove c'è quella sporgenza. Quella sporgenza lì è a forma di zoccolo di gnu. Non conosco lo gnu, devo conoscere lo zoccolo di gnu. L'altro mettilo nella rientranza in basso. Quale rientranza? Quella rientranza lì a forma di vertebra di moffetta. Avanti, dimmi come è fatta la moffetta. Ho detto vertebra, dentro non si vede. Vabbè, questo è bellissimo. No. Questo è bello. Cioè, comunque è una strada nuova, perché noi siamo cresciuti con il primo grande imitatore, che era Ligero Noschese, sì, che è stato il primo poi ad anticipare il fatto del talent di Carlo Conti, il fatto delle imitazioni, ma costruite con un grande trucco, con grande attenzione, quando la televisione c'era tempo per poterla fare, c'era tempo per poterla, sì, provare. E anche i balletti erano girati, beh, insomma, c'era un po' più di tempo e si è persa, sì, un po' la qualità per questo. Poi il grande e indimenticato Gigi Sabbani, al quale mando sempre un bacio gigantesco, perché era una persona straordinaria. Gli hanno fatto veramente male, vabbè, ma non è il momento per questo. Torniamo a te, perché poi devo collegarmi con lo sport per sapere i risultati, sì, ma sono molto sereno perché io gioco fra due ore, per cui non ho paura. Tu sei tifoso? Io no. Io di calcio niente, seguo, bravo, un po' Valentino Rossi. Com'è? Che c'è... Com'è? Allora, diciamo che la moto andava bene, abbiamo risolto il problema con setup, poi prossimamente, dai, un po', non parliamo di Marquez che mi sta un po' sui maroni, però vabbè, non ci dico queste cose. No, sì, Passiamo al calcio, dai, che... De Sica invece, ma una cosa meravigliosa, adesso la prossima volta vengo direttamente io dall'inizio. È pazzesco, ma sei pazzesco tu, ma io posso lasciare qui così davvero un collego addosso, perché adesso, ma sì, la cosa importante è che tu stia attento proprio dove vai, quello che fai e tutto quanto, perché adesso c'è un gran momento nei tuoi confronti, come l'ho saputo io. Bene, lo sanno gli altri, te lo auguro con tutto, ma anch'io, con tutto, grazie, il cuore. Senti, prima di passare ai nostri amici da Milano, un tiro mancino a proposito di calcio e un Califano, grande, sì, grande Califano. Diventai grande in un tempo piccolo. Mi buttai dal letto per sentirmi libero. Con due B. Sì. I che dal dolore o del filo rosso. Eccolo, Diego, che brividi. Buttando il cuore in qualunque posto. Diventai un albero per oscillare. Spostai lo sguardo per vedere altrove. Per dimenticare. Dipinsi l'anima su tela anonima e mescolai la vodka con acqua tonica. Poi pranzai tardi all'ora della cena. Mangia pure l'insalata. Che grande che era, grande Franco Carivano. Grande bacio, grande. Collegamento, stai con noi. Ci sono. Antonio, eccoci. Carissimo, eccoci. Capuano. Carissimo te, stanno finendo le partite. Sì, dammi un po'. Dai, di ti do subito la bella notizia. Ma dai, ma per mi fai passare veramente per uno anti e non è così. Dai. Però insomma, so che ti darò una soddisfazione. La Roma praticamente ha perso sotto 2-0. Siamo negli ultimi secondi del tempo di recupero. Sì. Traballa la panchina, di Garcia, traballa anche la stagione della Roma, diciamo la verità. Vedi, senza i due grandi sulle fasce, perché questo gioca sempre largo, non stringe mai. Dzeko doveva portare la Roma a stringersi un po' in area, invece si allargano e mancando le ali succede qualcosa di brutto. Sì, c'è probabilmente anche altro oggi, partita incomprensibile della Roma, che doveva riscattarsi dopo i 6 gol di Barcellona. Non si è visto nulla. Gomez, una piccola vendetta di Reja e Bollini a questo punto. L'Atalanta di Reja e Bollini. Pensa che Reja non perde contro la Roma dal 2011. Questa è la quinta partita consecutiva. Io non vinco da tanto tempo invece. E comunque, poi che cosa abbiamo ancora? Risultati, 15 secondi. Sì, sì, guarda, Udinese che praticamente ha vinto fuori casa Verona contro il Chievo 3-2, in rimonta anche il Carpi 2-1 a Marassi contro il Genoa e 3-2 del Frosinone sul Verona, ma ripeto, non Verona. È finito ancora niente, siamo veramente agli sgoccioli. Mandorlini anche agli sgoccioli, tante panchine agli sgoccioli. Carissimo, io ti abbraccio, so che qualcosa succederà anche nella mia vita 18. Fra due ore, per cui non è che c'è poco da ridere, insomma, da quel punto di vista. Buona trasmissione, sentite il nostro Mezzancella, che bravo. Straordinario. Come parla lui invece? Ho sentito. No, io parlo. No, io è imbarazzante intervenire in voice anatomy. Esatto. Porta pazienza, ma per noi umani è imbarazzante. Ti abbraccio, amico mio. Buona Ciao. Trasmissione a te e ai tuoi straordinari colleghi. Io ringrazio ancora una volta a Radio 24 che ci permette ogni domenica questa avventura attraverso il mondo della voce. Grazie a Alessia Navarro, grazie a Fabiani Damiano, grazie ad Alessandro Lidia Del Vetro insieme a Francesco. Un abbraccio a Valerio, perché Alessandro è quello che mi accompagna di più e che non è così ironico nei confronti dello sport. Non è vero, dice Valerio. Scusami, Valerio. Grazie Antonio Mezzancella. Ciao. Grazie Mario, noi ci vediamo in prossimi appuntamenti. Grazie a voi, ci sentiamo domenica prossima.